bisogna imparare tutto. Bisogna imparare tutto. Si dice la prima, bene. Ci siate? Vado? 3, 2, 1, ciao che si gira. Vai. Proviamo a parlare senza. Ci sentite? Allora, su richiesta, dopo l'ultimo. No, ci va. Va bene, allora. Dicevo, su richiesta, dopo l'ultimo incontro che abbiamo fatto con Loretta, su cosa fare per organizzarsi. E allora abbiamo pensato di invitare direttamente Francesco affinché ci parlasse di questo discorso, quindi delle reti di scambio e delle monete sostitutive della moneta che abbiamo attualmente. E vediamo cosa viene fuori, perché poi qualcuno mi aveva chiesto anche delle informazioni sul discorso medico, su cosa fare, quindi il discorso è molto ampio. Ora, se Francesco ha anche delle informazioni su gruppi di medici o di sanitari e o di sanitari che si riuniscano per fare un discorso medico alternativo, ne potrà parlare. Sicuramente c'è questa società medica italiana che si è formata, di cui abbiamo alcune una conoscenza di sicuro su Livorno, e eventualmente poi potremo affrontare anche più nel dettaglio il discorso. E intanto parliamo di come poterci sostenere nel caso che dovessimo andare verso il peggio. Ora, io ieri sera sentivo su Bio Blu un pezzettino dove effettivamente il gas ci mancherà. E quindi lì dobbiamo cominciare a pensare, perché il peso è importante. Quindi mi sembra che questo è uno dei temi fondamentali, insieme al discorso dell'alimentazione, perché se non potremo più andare a acquistare, in qualche maniera ci dovremo alimentare. E anche quindi, ecco perché la necessità delle reti di scambio. Ora, il territorio toscano è un territorio dal punto di vista alimentare veramente ricco. Io ho conoscenza di molti coltivatori, allevatori, da qui alla Grosseto, quindi se riusciamo veramente a fare rete superiamo il problema. Ci sarà il problema di come trasportarlo, vediamo, c'è qualcuno che sta pensando a fare. Oppure qualcuno che sta pensando a un motore diverso, perché ci sono anche queste... questi studi, proprio fra di noi, quindi non è detto che siamo completamente a terra. A questo punto passerei il discorso a Francesco, che secondo me potrebbe anche affrontare il discorso della guerra o quello che è laggiù tra la Russia e l'Ucraina, perché da lì dipendono molte cose. Bene, ve lo passo. Grazie. Grazie Giovanna, grazie a tutti voi. Dunque, sì, la situazione verso la quale andiamo, tutti la intuiamo. Naturalmente, sino alla fine, speriamo che non sia esattamente come temiamo. Però ci viene in mente, per l'appunto, la parola guerra associata all'economia diventa economia di guerra. I nostri nonni, ma anche i nostri genitori, durante la guerra vivevano soprattutto in campagna. Il 70%, diciamo, della popolazione italiana viveva in campagna. Aveva accesso alla terra, aveva la cultura necessaria, sapevano produrre e conservare, sapevano cavarsela e sopravvivere. Ora, qui in collina noi siamo in una situazione molto favorevole, però dobbiamo sempre pensare a milioni di persone nelle grandi città. Loro sono quelli più sfortunati, perché l'unico punto di approvvigionamento nelle grandi città sono i grandi supermercati, i grandi centri commerciali. Allora, quello che sta accadendo prima di tutto è una questione appunto monetaria, l'inflazione. L'inflazione, pensate che c'è un paese come la Turchia dove l'inflazione è al 70%. Significa, cosa significa inflazione? Significa che l'inflazione è tecnicamente la rapidità con cui i prezzi crescono. Quindi, quando diciamo che aumenta l'inflazione, non stiamo semplicemente dicendo che aumentano i prezzi, no, stiamo dicendo tecnicamente proprio che la velocità con cui aumentano i prezzi cresce. Quindi è una situazione brutta. Perché? Perché contemporaneamente non aumentano i salari e non aumentano gli stipendi. Anzi, uno come Bonomi, capo della Confindustria, proprio qualche tempo fa ha detto, dice, guardate, indipendentemente, cioè la guerra ci sta danneggiando, perché dal punto di vista delle sanzioni. C'era qualche tempo fa una locandina del Tirreno che diceva, nella sola zona di Pisa, parlava di 37 milioni di euro di perdita, no? Per le aziende pisane. Ora, non ho comprato il giornale, non so su quale scala temporale, però diceva, nel momento in cui le sanzioni si sono acuite, ci andiamo tutti di mezzo, perché ricordiamoci appunto, noi stiamo facendo la guerra con dei... Cosa ha fatto il governo? Ha fatto dei decreti Ucraina, ora ha fatto il decreto Ucraina bis, non li fa nemmeno discutere in Parlamento, siamo in questo stato di cose, chiede la fiducia e passano. E cosa passa? Beh, passano aiuti che mandiamo sotto forma finanziaria, sotto forma di supporto logistico e di armi a un paese che è un paese dove c'è stato un colpo di Stato nazista. Cioè, non sappiamo nemmeno, pensate che l'Ucraina è uno dei paesi più corrotti al mondo, classificato, e quindi non sappiamo dove finiscono le armi, non sappiamo dove finiscono i soldi, e però li stiamo mandando. Questa è la situazione, diciamo. E il nostro paese si è stato dichiarato paese ostile da un paese con cui abbiamo sempre collaborato economicamente, che è la Russia, ma storicamente proprio, che l'obiettivo della guerra è anche quello di tenere lontana la Russia dalla collaborazione con l'Europa. E noi da sempre prendiamo anche l'approvvigionamento energetico, perché dobbiamo tenere presente che il nostro paese è un paese che ha imparato nel corso del tempo a produrre di tutto, però ci manca la materia prima energetica, no? E infatti uno come Enrico Mattei negli anni 60, quando gli era stato proposto di demolire l'ente nazionale di idrocarburi, invece lui l'ha fatto rivivere. Ci siamo resi nemici, chi? La Francia, l'Inghilterra, perché nell'ambito del Mediterraneo noi sapevamo fare le turbine, sapevamo pescare il petrolio, cioè sapevamo fare, per cui eravamo in grado di andare lì in questi paesi e dire se lo date a noi il petrolio, il gas, allora più il petrolio che il gas, le nostre condizioni sono migliori. Noi ci teniamo il 25%, a voi vi lasciamo il 75%. Allora era appoggiato naturalmente da quel grande uomo politico che era Aldo Moro. Aldo Moro giornalisticamente veniva chiamato l'amico degli arabi, no? Però loro, diedero il supporto al nostro paese perché il nostro paese in poco tempo si risollevasse anche dalla guerra. Tutti noi abbiamo una certa età e ci ricordiamo come cresceva velocemente il nostro paese. Ma non cresceva solo economicamente, ma anche dal punto di vista, civile, no? Le leggi che abbiamo concepito andavano tutte a migliorare la condizione sociale, economica, civile che vivevamo, mentre da un certo punto in poi ci siamo resi conto che tutto ciò che di buono era stato fatto beh, è iniziato lo smantellamento, compresa l'uccisione di Enrico Martelli di Aldo Moro. No? E oggi la situazione in cui ci abbiamo, dicevamo, è l'inflazione. L'inflazione, allora, quando c'era, c'era anche la scala mobile. Per cui se aumentava il costo della vita, i salari si adeguavano, gli stipendi si adeguavano. Le persone non perdevano potere d'acquisto, quindi erano ancora in grado di alimentare la produzione, anche quella interna. E oggi tutto l'Occidente, perché dobbiamo guardare le cose un po' panoramicamente. Dunque, siamo quasi 8 miliardi sul pianeta, 8 miliardi di persone. Qualcuno dice che siamo troppi, ma non è vero, perché guardate, viviamo in un'epoca in cui la miseria è artificiosa, è provocata per interessi speculativi di pochi, perché proprio sono sotto attacco anche gli stati nazionali. Strutture come, diciamo, il sistema corporate, le grandi multinazionali, i grandi centri commerciali, le grandi banche d'affari usano gli stati per poter imporre i loro interessi e piazzano anche i loro uomini al posto giusto, un po' come si comporta la mafia quando la mafia vuole ottenere, diciamo, risorse pubbliche. Riesce a piazzare i suoi uomini in punti particolari, no? Nelle amministrazioni pubbliche, eccetera. E quindi la corruzione politica viene anche da lì. Allora, oggi questa situazione rischia di farsi brutta un po' per tutti, perché guardate uno degli effetti: l'euro sta perdendo progressivamente valore. Cosa significa? Significa che compriamo più difficilmente all'estero, cioè quello che prima compravamo all'estero, ora siccome si svaluta l'euro, con la stessa quantità di denaro compriamo meno. Ma dicevo, la situazione è questa, che nel mondo ci sono quasi 8 miliardi di persone. Quanti sono gli occidentali? Pochini, ormai siamo pochini, eh? Ma nemmeno un miliardo, sì, un miliardo, quello è giusto. Circa un miliardo, non ci serviva gli occidentali. Gli altri, quindi, sono 7 miliardi, sono pochi. E nel mondo occidentale prima avevamo un primato, quello scientifico, tecnologico, no? Ma ora abbiamo ancora questo primato? Non ce l'abbiamo più. Nel senso che mica i cinesi hanno copiato, hanno imparato velocissimamente, hanno mandato in giro per il mondo i loro giovani a imparare tutto quello che c'era da imparare. Ma si sono anche autonomizzati, hanno fatto bene a fare quello che hanno fatto, non possiamo denigrarli per questo. Però dobbiamo essere consapevoli della nostra condizione. Abbiamo nel mondo occidentale grandi riserve di gas, petrolio, materie prime, per esempio in Europa? Non ce l'abbiamo. Abbiamo però altre cose molto importanti. Ma se ci facciamo mancare, appunto, il motore primo, che è l'energia, pensiamoci un attimo: nel momento in cui viene a mancare l'energia, nelle sue varie forme, no? Da quella elettrica, benzine, eccetera, eccetera, guardate, se ci pensiamo un attimo, e ciascuno dice: cos'è che non posso più fare? Come cambia la mia giornata nel momento in cui non ho più accesso all'energia da combustibile fossile? Perché dice: ma l'energia elettrica la produciamo bruciando combustibili fossili. C'è chi la produce facendo reazioni nucleari nelle centrali nucleari. Noi abbiamo rinunciato a questa possibilità e abbiamo fatto bene. Ma anche produrre i pannelli, qualsiasi cosa vuoi fare, ti serve energia. Pensiamo al fatto che letteralmente, come si sono messe le cose, noi trasformiamo i combustibili fossili in cibo, in produzione animale. Pensate di coltivare senza utilizzare energia. Cosa significa? Pensiamoci un attimo. Poi non posso usare un trattore, i concimi chimici non li posso usare, non posso annaffiare. Cioè, pensate a una situazione di blackout energetico, no? E come noi abbiamo imparato, ci siamo lasciati, diciamo, perché prima sapevano fare anche senza. Ecco. Ma quanto tempo ci vuole per tornare in quella condizione? Però dobbiamo aggiungere una cosa, quanti siamo ora? Siamo molti di più. Sappiamo fare come sapevano fare loro? Tra l'altro, abbiamo accesso alla terra oppure le terre le abbiamo abbandonate? Prima si ragionava sul fatto che io vivevo qui, in collina, e c'era, mi ricordo solo il nome, Lino, un contadino, e guardavamo le colline e io gli parlavo della bellezza dei boschi, no? Ogni tanto uscivamo insieme, facevamo dei percorsi, ci portavamo i bimbi. E lui mi diceva: Francesco, ma te vedi così, vedi il bosco, io sai cosa vedo? Vedo che qui era tutto coltivato. Dice: guarda che c'era pochissimo che era libero, che c'era il bosco, insomma, era pochissime di queste colline rimanevano col bosco. Si lasciavano strategicamente anche dei punti. Dice, però era tutto quello che c'era da coltivare era coltivato, così vivevamo. Questo mi diceva. Quindi vedete come siamo lontani da questa situazione, da quella condizione. E allora dobbiamo darci da fare prima di tutto per valorizzare la terra, valorizzare gli interni, allontanarsi possibilmente dalle città. Le periferie che abbiamo abbandonato, le culture che abbiamo abbandonato, dobbiamo recuperarle, ma anche molto in fretta. Speriamo che tutto quello che temiamo non accada o si riesca a sviare. Però intanto dobbiamo in qualche modo premunirci, perché gli anni che abbiamo davanti non sono anni facili, sono anni di grande turbolenza, perché già a livello internazionale ci sono dei conflitti sull'ordine, diciamo, nel dopoguerra il dollaro è diventata la moneta di riferimento a livello internazionale. Hanno imposto il dollaro, una moneta nazionale, come moneta internazionale. Ma questo, diciamo, questo assetto che è venuto a Bretton Woods sta cadendo, perché ci sono altri paesi emergenti molto forti. Dicevamo, noi siamo 1 miliardo, ma dall'altra parte ci sono 7 miliardi di persone. Il mondo non è più unipolare, non c'è più l'egemonia occidentale statunitense. Da qui si capisce, diciamo, il conflitto. Il mondo è multipolare nei fatti. È un po' come se l'Occidente ostinatamente, solo perché forte militarmente, dotato dell'esercito più forte al mondo, di cui si è potuto dotare nel corso del tempo grazie allo sfruttamento sistematico dell'altra parte del mondo, imponesse ancora la sua egemonia sul resto del mondo, pretendesse ancora, ecco il conflitto, diciamo, ridotto alla sua essenza. Per quello davvero stiamo rischiando che la guerra diventi una guerra totale. ci sono in corso in questo momento esercitazioni militari, ma anche sul nostro territorio. Pensate, ce n'è in corso una, si chiama Mare Aperto, che coinvolge tra la Sardegna, il canale di Sicilia e tutta l'area sopra la Sicilia, tanto che molti voli civili verso il sud devono stare attentissimi, perché questa esercitazione durerà tutto il mese di maggio. Ma ci sono molte esercitazioni militari proprio là al confine con la Russia, e non è un caso che un paese come la Finlandia, che era, e anche la Svezia, tradizionalmente diciamo neutrali, o pensate anche alla Svizzera, uno dice, ma chi glielo fa fare alla Svizzera? Perché anche la Svizzera, no? Ma dall'altra parte del mondo anche il Giappone cominciano a dire, dobbiamo entrare nella NATO, la Corea del Sud è nella NATO, vogliono fare una sorta di NATO globale. E pensate al fatto che gli Stati Uniti hanno nel mondo più di 800 basi militari. Ovunque nel mondo ci sono basi militari statunitensi, basi NATO. Ma la Finlandia è talmente vicina, confina con la Russia. E quello che hanno fatto con i vaccini, guardate. Ricordate con Loretta abbiamo ragionato sul, lei lo chiama il fast track, cioè siccome siamo in una condizione di emergenza sanitaria, sai che facciamo? Facciamo prima, bypassiamo tutte le regole, tutte le norme, mettiamo immediatamente in commercio, usiamo il vaccino anche se non abbiamo avuto tempo di fare tutto ciò che è previsto che si faccia per legittimare l'uso di un vaccino, no? Allora guardate, una specie di fast track lo stanno facendo anche ora con questi paesi, perché ci sono delle procedure per entrare nella NATO, tra l'altro tutti devono essere d'accordo, i paesi già dentro la NATO. Ricordate che negli ultimi anni erano 16 paesi NATO, sono diventati 30. E la NATO si è estesa a est, a ridosso della Russia. E questo è uno dei fattori che ha scatenato la guerra. Uno dei fattori forse più potente, ma che insiste, che continua. Ora stanno mettendo in atto una procedura emergenziale per far entrare immediatamente la Finlandia e la Svezia, e siccome si è opposta la Turchia, la quale appunto è in gravi difficoltà economiche per via dell'inflazione che dicevamo prima, e che in pratica chiede, se volete il mio consenso aiutatevi, che tra l'altro lì ci sono delle questioni sul Mar Nero, dovrebbe passare un gasdotto, ma insomma la situazione è complicata, ma addirittura gli inglesi hanno detto, nel frattempo che aspettiamo che entri, no? Io intanto li aiuto, porto lì armi nucleari. Ora se uno guarda la cartina si rende conto, in pochissimo tempo sei a Pietroburgo, in pochissimo tempo sei a Mosca. Capite che questo rende tutto più difficile, più instabile. Al contrario, bisognerebbe che ci si tirasse fuori. C'è l'articolo 13 del trattato transatlantico della NATO che dice come tirarsi fuori dalla NATO. Noi, per esempio, dovremmo diventare neutrali, attivamente neutrali. Cioè, finirla con questa cosa che dobbiamo patteggiare per una parte o per l'altra, come ci viene detto di fare. Non abbiamo più nessuna capacità di decisione autonoma, quella che in passato si chiamava l'autodeterminazione dei popoli, no? Che poi è scritta sulla nostra Costituzione, al primo articolo, qui si dice dobbiamo decidere tutti insieme, la sovranità popolare, no? Di cui parlava la nostra Teresa Mattei, che viveva qui a Ausiliano. Costituzionalista, lei, cioè diciamo, madre costituente. Noi non abbiamo più una nostra politica estera, quindi ci viene detto: devi fare le sanzioni, devi interrompere i tuoi rapporti con la Russia, e l'abbiamo interrotte, malgrado il sangue che è stato versato, perché tante aziende poi sono costrette a chiudere e quindi a licenziare. Questa è la situazione verso la quale stiamo andando. E allora lassù, perché la Finlandia, la Svezia? Perché c'è un altro conflitto, ed è quello per la gestione dell'Artico, perché nell'Artico lì ci sono tutta una serie di risorse, no? C'era un consiglio artico che, a cui partecipavano tanti paesi che hanno delle pertinenze territoriali sul polo nord, diciamo, no? Nell'Artico. Perché ultimamente cos'è successo? Che la stagione calda, la stagione fredda dura di meno, per cui è navigabile. Allora lì in cima al mondo, diciamo così, si fa prima per il commercio, e non solo, ma lì è ricchissimo di riserve energetiche, materie prime, per cui c'era questo consiglio artico che serviva anche ai vari paesi che hanno pertinenze territoriali, ma tanti, dal Canada, gli stessi USA, l'Islanda, la Finlandia, cioè tutti quelli che si affacciano lassù, e la Russia. La Russia era presidente di questo consiglio artico, se la scambiano, diciamo, a turni. Beh, è saltato questo consiglio artico e la presidenza russa è stata disconosciuta dagli altri partecipanti. Cioè c'è un conflitto, mi voglio dire, anche nel polo nord. I conflitti possono degenerare in guerra, no? Quindi non è a caso che la Finlandia, la Svezia, che stanno lassù, anche loro diventano un paese NATO, una NATO globale, quindi. E dicevamo prima, è un po' come se questo vecchio mondo, quello occidentale, non accettasse l'emergere del nuovo mondo, in cui sono molti di più, e la Russia e la Cina, man mano che noi siamo stati costretti a respingere il rapporto con la Russia che è più che è europea, non è asiatica la Russia, anche come cultura, no? Sono molto europei, non sono mica asiatici i russi, eppure l'abbiamo spinti ad abbracciare la Cina, è per forza, ma Russia, Cina, India, tutti i paesi emergenti, fortissimi. Quindi cosa fanno giustamente? Prima c'erano i paesi non allineati, e loro si mettono insieme. Un paese come la Russia è forte dal punto di vista militare, ma c'ha un mare di riserve energetiche, pensate a tutta la Siberia, no? E tra l'altro confinano. E sapete, non è a caso che si sono inventati l'Afghanistan, perché l'Afghanistan sta lì tra Russia e Cina, e quindi quando nel 2001 venne il collasso, cioè fecero, provocarono il collasso delle Torri Gemelle, immediatamente si sono andati a piazzare dove? In Afghanistan, ci sono rimasti per più di 20 anni, no? E quindi vedete che il mondo si trova in una situazione instabile, molto instabile, per cui non sappiamo bene cosa aspettarci. E ora torniamo a noi. Questa analisi potrebbe continuare moltissimo, però insomma abbiamo fatto un piccolo cenno per capire un po' dove ci troviamo. Perché ci dobbiamo chiedere: ma cos'è l'economia se la vogliamo ridurre alla sua essenza, no? Come comunità? Che già la parola comunità ha a che fare con l'economia. Comunità viene da... La parola comunità ha a che fare con il latino cum munus. Cum munus. Cum è insieme, e munus è dono. E c'è un binomio che tutti conosciamo per cultura, che è munus e remuneratio. Cioè a dire, quando noi nella nostra cultura riceviamo un dono, io penso a mia madre, no? Io sono siciliano d'origine, mia madre quando riceve un dono, poi lei si chiede come posso restituirlo, devo restituirlo, se no che figura ci faccio? E quando si restituisce si cerca di alzare la posta, cioè tu mai fatto un dono di questo valore, io cerco di farlo, cioè cerco di capire cosa ti serve, questa è una cosa importantissima. Quindi sono attento a te, alla tua condizione e cerco di farti un dono che ti farà stare meglio. Quindi munus remuneratio. C'è questo nella nostra cultura, ma questa è l'essenza dell'economia. Perché ciascuno di noi potrebbe avere, diciamo, la tentazione o l'illusione di dire faccio da me, sai cosa faccio ora? Me ne vado, ho la mia terra, so fare tutto, posso campare anche completamente da solo. È facile? È un po' difficile, pochissime persone al mondo ci riescono. Quindi dov'è l'idea di comunità? Ognuno di noi ha delle sue caratteristiche, delle sue specificità, ognuno di noi ha delle sue passioni, quindi ognuno di noi capisce, in una condizione ottimale, cosa gli piace fare nella vita. E quando abbiamo la possibilità di scegliere cosa fare, lo facciamo nel migliore dei modi, no? Lo facciamo, come si potrebbe dire, con amore, no? Perché quella è la cosa che ci viene da di dentro. Allora, noi facciamo, produciamo beni o servizi secondo la nostra indole. Nel fare questo possiamo produrre delle eccedenze, cioè facciamo più di quello che ci serve. Allora, però non riusciamo a fare tutto ciò che ci serve, quindi le eccedenze, quello che facciamo in più, ecco, questa è la parte che scambiamo. È qui che nasce la comunità. Una comunità ideale è questa. Ciascuno di noi produce quello che, per cui si sente portato, produce però anche delle eccedenze e le eccedenze le scambia. In questo modo la comunità diventa tale. Si fonda la comunità su questo binomio. Munus remuneratio. Quindi questa è la base dell'economia. È quello che, diciamo, storicamente, prima eravamo, ma anche quando eravamo solo raccoglitori, no? Diciamo nel paleolitico, non ci eravamo ancora fermati con il neolitico, questo succede circa 10.000 anni fa. Poi si formano, diciamo, questi agglomerati urbani, ma prima ancora eravamo semplicemente raccoglitori, no? Però anche quando eravamo raccoglitori cominciavamo ad avere dei rapporti. Per fare la caccia si fa meglio, o per raccogliere si fa meglio, le donne più che altro raccoglievano, gli uomini andavano a caccia, ma tutte e due le cose le facevano entrambi, e ci si dava da fare in tanti modi. Poi quando siamo diventati più stanziali, lo siamo diventati nel neolitico con l'agricoltura. Vabbè, ma oggi cosa dobbiamo fare? Ma intanto non dobbiamo recuperare tutta quella cultura, e istintivamente viene in mente a tutti quello che sapevano fare, quello che uno si guarda dentro e dice: ma io cosa so fare? Ho accesso alla terra? Se non ce l'ho, ecco un buon modo di investire immediatamente dei soldi. Devo avere un pezzetto di terra. E cosa so fare? E cosa posso imparare? E come posso collaborare con i miei primi vicini? Queste sono domande di base che dobbiamo farci. per metterci in una condizione, diciamo, di sopravvivenza nel caso peggiore. Sapete, si prevede che molti, che interi paesi falliscano. Con quali ripercussioni? Non lo sappiamo. Allora, tutto ciò che di buono invece sappiamo fare, dobbiamo rimetterlo in campo. Ora, per fortuna, in Italia noi sappiamo fare un sacco di cose e anche dal punto di vista finanziario abbiamo inventato di tutto, dalla banca alla cambiale, la partita doppia, moltissime cose le abbiamo inventate qui in Italia. E di recente, appunto, sono nate, nel 2010 nasce il Sardex, e nasce sulla scia, diciamo, studiando un sistema simile che si è sviluppato in Svizzera nel 1934, dopo la crisi del 29, la grande crisi del secolo scorso, no? Ma quella di ora, a detta di tutti, si sta profilando molto più grave. Dicevo prima di Bonomi, Bonomi ha detto, dice, guardate, la maggior parte dell'attività produttiva sta diventando antieconomica. Ma il capo della Confindustria, no, che dice una cosa di questo tipo, ci sta dicendo in pratica, guardate che se continua così, molte aziende non hanno più un margine. Cioè, significa che i costi di produzione possono diventare talmente alti che siamo costretti a chiudere. E questo significa fallimenti, licenziamenti, disordini sociali, una situazione terribile. E pensando a disordini sociali e perdita della coesione sociale, siccome stanno imparando a irrigimentare la gente, no? E qui ci viene in mente il Super Green Pass, lo stato di emergenza, qualcuno vuole mettere mano alla Costituzione, all'articolo 78, per mettere lo stato di emergenza dentro la Costituzione. E guardate, hanno i numeri per farlo, decidono di farlo, lo fanno. Addirittura potremmo, pensando male, che introducono, visto che il nostro paese lo hanno messo in guerra contro la Russia, che introducono uno stato di emergenza marziale. Cosa significa? Che tutte le leggi ordinarie saltano. Noi siamo un po' in pena, tutti voi immagino sappiate che si deve pronunciare a breve, la Corte Costituzionale è interrogata sull'obbligatorietà vaccinale. Ci deve dire la Corte Costituzionale, lì si gioca un gioco pesantissimo, no? Ci deve dire se è lecito, secondo la Costituzione, obbligare alla vaccinazione. In Canada stanno decidendo, praticamente ci tolgono i figli, in Canada stanno decidendo, hanno cominciato a dire i ragazzini, ma ne vogliono fare una legge, che decidono di vaccinarsi, i minori che decidono di vaccinarsi contro il volere dei genitori, devono essere tutelati, possono farlo. Quindi i nostri figli, che quando crescono in quello stato adolescenziale, no? Cosa fanno i figli? Giustamente, per diventare grandi, si oppongono ai genitori. Diciamo, fisiologicamente entrano in conflitto con i genitori. Non è detto, ma insomma ci sono forme di conflitto che sono, come dire, devo diventare grande, quindi devo imparare a contrappormi anche ai miei genitori. Sappiamo che quando questo non avviene, quei figlioli crescono male, nel senso che devono diventare autonomi. Ma se noi gli concediamo questa possibilità su una cosa talmente delicata come la stiamo vedendo, no? Questo è terribile. Cioè, è come se ci espropriassero dei nostri figli. Allora, dicevo, stanno imparando a irrigimentarci, ci mettono come come se stessero costruendo una specie di campo di concentramento in cui mettono tutti, non un piccolo gruppo. Sì, può darsi anche che poi alcuni che loro individuano, no? Cioè questi in particolare li mettiamo da parte perché questi sono i capi branco, quelli che fanno troppa confusione, no? E allora forse, insomma, nel peggiore dei nostri incubi pensiamo anche a questo. Perché oggi, a pensar male, purtroppo ci si indovina in maniera sistematica, no? E quindi dobbiamo pensar male. Ma pensar male cosa significa? Pensar male in senso preventivo, in senso utile, come dire, metto le mani avanti, no? Sto cadendo, piuttosto che metto le mani avanti, cerco di fare qualcosa, il più possibile. E allora noi siamo in questa situazione, che possiamo anche pensare che ci mettono, vista la confusione che può venire fuori dal fatto che manca il pane, che manca che i costi si lievitano, tutte cose che potrebbero succedere. Io non sto dicendo che sicuramente accadranno, ma ancora non abbiamo rinunciato al gas russo, eh? Ancora ci arriva tutto quello che ci arriva, però stiamo già vedendo degli effetti che c'erano già per altre motivazioni. Figuriamoci se accadesse anche questo, no? Che all'improvviso non è che possiamo sostituire tutto quel gas in pochissimo tempo, non lo possiamo fare. E quindi, diciamo, andiamo verso una fase di transizione importantissima. Allora, dicevo prima che per fortuna nel nostro paese tanti rimedi stanno venendo alla luce, tante sperimentazioni importanti, no? Allora, una di cui vi voglio parlare è filiere virtuose, l'altra, poi ve ne parlerò, però non devo dimenticarla, e l'altra è queste reti. Dicevo prima, nel 2009-2010 nasce Sardex e di recente sono nate delle reti più evolute di Sardex, no? E una di queste si chiama Butterfly, l'altra si chiama Monetica. Erano già nate reti di mutuo credito, ma quelle che ritengo più evolute, qui in Lucchesia reti di mutuo credito, ma anche comunità economica indipendente, ma quelle che personalmente ritengo più evolute, perché molte di queste, Sardex, comunità economica indipendente, reti di mutuo credito, non hanno un rapporto con la moneta circolante, con l'euro. Cioè, se io entro dentro queste reti, la mia economia non la faccio all'interno di quel circuito, però non posso ritornare all'euro. Cioè, quello che là dentro ottengo di buono non lo posso trasformare in euro. Ecco. Però tutti sappiamo che con l'euro bisogna pagare le tasse. Allora, la via d'uscita qual è? Che io entro dentro questi circuiti di cui ora parliamo, però allo stesso tempo mi devo mantenere in parallelo un'economia in euro. E dentro il circuito faccio i miei scambi. Ora, perché dico che Butterfly, Monetica sono più evoluti da questo punto di vista? Perché mi consentono, ora diremo in che termini, una conversione, diciamo, della ricchezza che io posso conseguire dentro il circuito in euro. Perché che devo farci con gli euro? Con gli euro devo comprare tutto ciò che non trovo dentro il circuito e tutto ciò che non riesco ad autoprodurmi. Con gli euro devo pagare le tasse. Oggi sta succedendo che quelli più accorti dicono: l'euro perde valore. Allora sai che faccio? Se ho dei risparmi, non so, compro franchi svizzeri. qualcuno dice compro dollari, perché se il dollaro aumenta di valore, che ora alzano i tassi di interesse, allora io sai che faccio i miei euro, che perdono invece valore rispetto al dollaro, allora io li converto in dollari. Qualcun altro dice io ho troppi euro da parte, come faccio a preservarmi? Qualcuno compra oro fisico, perché l'oro, se uno va a vedere, il suo valore sta continuando ad aumentare. Ma perché? Perché questo succede perché l'oro è un bene rifugio, no? Allora, quando c'è maretta, chiamiamola maretta, ma la gente dice, sai che faccio? Compro oro, perché tanto vedo che il valore dell'oro sta aumentando, no? Altri invece dicono, ma io c'ho da investire, posso fare delle cose importanti, mi compro la terra, mi compro, diciamo, mi metto nelle condizioni di autoprodurmi delle cose. Ecco, questa è una buona scelta, una scelta importante, no? Allora, però, ora, se no poi il tempo ci manca, vi spiego come funziona un sistema come Monetica o come Butterfly. Ne parlo insieme a Monetica perché sono diventate un'unica cosa, si sono integrati, anche perché hanno la stessa struttura di fondo, cioè i tecnici che hanno lavorato all'uno hanno lavorato anche a quell'altro. Allora, la primissima cosa da dirvi, che vi devo dire, è che ciascuno di noi può sospettare che si tratti di sistemi artigianali, ed è lecito pensarlo, no? Dice, oh, guarda cosa si stanno inventando, ma funzionerà? Non è che poi arriva l'agenzia delle entrate, il fisco e chiude tutto. Ecco, allora, Monetica nasce, l'amministratore delegato è Vito Umberto Vavalli. Io l'ho intervistato l'altro ieri. Guardate, a un certo punto gli ho chiesto, Vito, me lo dai un tuo curriculum, una tua biografia, quello che hai fatto? E io sinceramente mi sono spaventato. Questo ha 12 pagine di curriculum, ma vi dico alcune delle cose che ho visto. Avete presente il RID bancario? No? Quello che uno dice, pago le bollette con il RID bancario, così non... l'ha inventato lui. Avete presente il sistema di pagamenti SEPA? Lui. Avete presente quando è arrivato l'internet banking? Lui era lì presidente, è uno che è stato nell'ENI come tesoriere dell'ENI. E io nell'intervista gli ho chiesto, ma dico, questa cosa che abbiamo messo in piedi è conforme alle normative italiane e quelle europee dal punto di vista civilistico, fiscale, eccetera? Non è che, perché sembra, ora vi racconto un po' come funziona, sembra troppo bello per essere vero, non è che poi noi ci crediamo, entriamo dentro e ce la battono, no? Ci dicono no, questo è fuori legge. E lui, io gliel'ho fatta provocatoriamente, perché quando vedi una persona così che ha deciso, che ha sempre lavorato per le istituzioni finanziarie e che cambia completamente rotta, non lo fa a caso, perché tu, se ci parli un po', lo senti che è schifato di tutto quello che lui conosce a certi livelli che noi non ci sogniamo. E lui viene consultato per il sistema SWIFT dei pagamenti internazionali. Ecco, allora, l'architetto principale di una cosa come Monetica è lui. I documenti che io sono trovato a leggere, più complessi dal punto di vista tecnico, dicono quanto seria è questa organizzazione e quanto evoluta sia. Allora, ma vediamo un po' come funziona, perché se la domanda è chi può far parte di questa rete, ed è una rete locale oppure una rete nazionale, allora chi può far parte? Praticamente tutti. In che forma? si può far parte della rete, poi vi farò vedere come fare, anche come semplici consumatori associati, cioè come dire, io non so produrre nulla, non so produrre né beni né servizi, nulla, mi interessa stare dentro questa rete semplicemente per acquistare da chi sta lì dentro. Immaginate che questo agriturismo sia dentro la rete. Allora io vengo qui e voglio pagare utilizzando la moneta della rete. Ora vediamo cosa significa. Ma intanto io, da consumatore semplice, da associato semplice, che vantaggio ho? Cosa mi offre questa rete se sono un consumatore semplice? Allora, di questa cosa parliamo subito. Se io sto dentro la rete come consumatore semplice, ho un vantaggio enorme. Entro dentro la rete, scarico un'applicazione, ora poi vi dirò come fare se lo volete fare, scarico un'applicazione e accade questo. A parte che all'inizio mi danno, perché lì la moneta si chiama ETIX, monetica è chiaro, no? Moneta da una parte ed etica dall'altra. Infatti c'è un codice etico, poi chi lo vuole, se me lo chiedete, te lo mando a te, lo giri, no? Un po' di documentazione. Allora, se io voglio acquistare per esempio servizi agrituristici e so che questo agriturismo sta dentro la rete, non mi conviene spendere euro, ma fare una cosa di questo tipo. Immaginate che io vengo qui e ho un conto da pagare, i numeri non li scelgo a caso, ho un conto da pagare di 130 euro, d'accordo? Sono venuto qui all'agriturismo La Badia, mi sono servito, non so, stanze, servizi agrituristici e alla fine mi presenta il conto 130 euro. Ma se questo agriturismo sta dentro monetica, sapete quanto mi costano 130 euro? Mi costano 100 euro. Dice, ma com'è possibile? Che significa questa storia? Ma significa questo, che in realtà io, per avere lui, siccome sta dentro, deve accettare la moneta del circuito, che si chiama ETIX. Allora, 130 euro diventano 130 ETIX, perché un euro è un ETIX, d'accordo? E io come faccio a procurarmi 130 ETIX? Prendo la mia applicazione, la carico, ci metto 100 euro e il mio conto viene caricato fino a 130 ETIX. Cioè ho immediatamente un aumento del potere d'acquisto del 30%. Questo significa. Quindi molto semplice, cioè nel senso, allora, poi vi devo dire che giustamente molte persone si chiedono, cioè, ma com'è possibile? Cioè, da dove vi pigliano questi soldi? Che ci rimette? Ma non è che qui c'è qualcosa che di strano, no? Ok, ora poi parliamo anche di questo, che è importante. La diffidenza prima di tutto. Allora, intanto interrompetemi quando volete, perché ora entriamo proprio nel vivo delle spiegazioni, no? Quindi voi immaginate che, ora vi dirò come fare per chi è interessato anche successivamente, basta andare lì sul scaricare l'applicazione sul proprio cellulare, andare, se uno ha Android va sul Play Store e cerca Monetica, scritto col dittongo TH, Monetica SRL, e scarica un'applicazione come facciamo normalmente, no? Se uno ha l'iPhone, allora va su, come si chiama, l'App Store, e si va a cercare anche lì Monetica SRL con la TH e si scarica l'applicazione e poi si iscrive, quindi dai i suoi dati compreso il codice fiscale. Il codice fiscale è importante, perché quando entri ti danno praticamente 5 ETIX che corrispondono a 5 euro gratis, nel senso come omaggio di benvenuto, e poi ti danno 50 ETIX che tu puoi spendere tranquillamente, cioè, però sono un prestito, una facilitazione commerciale, come dire, appena entri, se vuoi puoi provare, non c'è bisogno che ci metti soldi tuoi, non c'è bisogno che ci metti euro, ecco. Tu puoi provare a spendere, se poi la cosa ti piace, è una prova, diciamo, se poi ti piace, allora ecco che metti, la carichi, diventa questa applicazione come una ricaricabile. Avete presente quella, non so se qualcuno di voi ha Postpay Evolution, per esempio, le ricaricabili, no? Uno cosa fa? Prende i suoi soldi dal conto e li mette lì sulla ricaricabile per fare le spese, magari su internet, eccetera, per dire così non faccio accedere, cioè uso una carta che se le, insomma, se dovesse essere taroccata, eccetera, non hanno accesso direttamente al mio conto principale. La ricaricabile, ecco. Allora, questa funziona come una ricaricabile. Io ci voglio caricare 100 euro e mi danno 130 euro, 130 ETIX. Però, ecco, i prezzi dentro il circuito sono gli stessi che fuori dal circuito. Per cui, se una cosa, se un qualsiasi bene costasse fuori dal circuito, non so, 60 euro, dentro il circuito costerà 60 ETIX. Però, attenzione, quando io metto 100 euro, mi vengono dati 130 ETIX. Quindi vedete che stiamo andando controcorrente. Mentre fuori c'è l'inflazione, qui, quindi diminuzione del potere d'acquisto, qui questo sistema ci permette un aumento del potere d'acquisto del 30%. Quindi, e questo dice, ma si potrà fare? No, si può già fare. Quante, diciamo, ci sono già dentro il circuito circa 3.000 tra associati, aziende, ce ne sono quasi 1.000 di aziende attualmente, ha cominciato ad avere adesioni, a raccogliere adesioni da ottobre scorso. Esiste questo circuito da, diciamo, è stato inaugurato agosto scorso. Quindi già da oggi voi potete scaricare l'applicazione, compilate, c'è scritto nome e cognome e lo scrivi, le credenziali, so quando vi iscrivete in un sito, quando, ecco, mettete le vostre credenziali, una mail, una password, il codice fiscale. Il codice fiscale è importante perché se no ci potrebbero essere persone che si approfittano di quelle 55 ETIX, no? Cioè mi iscrivo più volte, ho sempre 55 euro e compro. No, non si può fare questo, no? Quindi perché il codice fiscale, a ogni codice fiscale corrisponde una sola persona, ecco. Allora, questo è il vantaggio per l'associato. L'associato ha questo vantaggio. Ma come vedete, e questo è molto diverso. Prego, prego. Una domanda. Ma l'agriturismo lo potrei pagare anche in ETIX e basta? Sì. Allora, se questo agriturismo decidesse di far parte del circuito e per statuto, cioè diciamo per contratto, meglio dire, deve accettare gli ETIX. Quindi se lei viene qui e ha un conto da pagare, prima dicevamo di 130 euro, non è, lei è iscritto a Monetica e lui è iscritto a Monetica, lui è obbligatoriamente deve accettare gli ETIX, per cui quei 130 euro devono diventare 130 ETIX, ma lei per procurarsi 130 ETIX spende 100 euro. Ma dobbiamo aggiungere una cosa importantissima. Permette un circuito di questo tipo di il segmento di mercato che si chiama peer to peer, cioè da pari a pari. Nel senso che immaginate che qualcuno di voi ha, non so, un hobby, fa delle riparazioni. oppure fa il sarto, fa qualsiasi cosa, fa le marmellate, quello che volete voi, no? Ma non è un produttore, cioè non è un'azienda, non è un artigiano dichiarato tale. Cioè non è sempre tutto legato alla partita IVA. No, esatto. Allora, tra di voi vi conoscete. Allora, questi scambi da privato a privato possono diventare ethics. Nel senso che vi mettete d'accordo tra di voi e dite: io ti pago in ethics, d'accordo? Prego, prego. No, sempre, io pago in ethics, sì. La struttura, ovviamente, la struttura integrata nel sistema, sì. Euro, va bene, e quindi nel sistema fiscale, che ricevuta dà a me? Gli dà la ricevuta normale. In euro? Sì. C'è una parte in ethics, questo è tutto strutturato, c'è la parte, viene dichiarata la parte in ethics, la parte in euro. Ora ci arriviamo pian piano, come si deve comportare l'azienda dentro, nel momento in cui entrasse dentro il circuito. Allora, sì, qui è la tecnologia che però la usiamo, diciamo, per noi, per il nostro vantaggio, prego, prego. Perché il pagare in ethics è tutto digitale, non c'è moneta circolante. No, è digitale, sì, è digitale. Però non è una moneta come ce la immaginiamo, come quella a cui siamo abituati. Allora, pian piano, man mano ci arriviamo, no? Ne parliamo ora quando pensiamo agli scambi tra... Immaginate, se questo agriturismo entra dentro... avrà due tipi di rapporti, con i privati, con gli associati, che sono, diciamo, le persone che stanno dentro solo come consumatori. E poi questo agriturismo può avere rapporti con altre aziende, che possono essere... i fornitori. Sì, i fornitori. Per esempio, ci può essere, diciamo, l'azienda agricola che vi fornisce... qui gli dà i vini, d'accordo? Allora, qui entriamo ora in quest'altro segmento di mercato, come avvengono i rapporti tra di loro, tra per esempio un produttore di vini e l'agriturismo. Alcuni agriturismi si producono il proprio vino, però non è detto, no? Allora, e qui diventa molto interessante. Cosa accade? Accade che immaginate che lui compra, come si chiama il gestore qui? Eugenio. Eugenio compra, diciamo, vini da un'azienda agricola che sta anche lei dentro il circuito e che è in zona, no? E compra vini per il valore di, facciamo, 1000 euro, d'accordo? Allora accade questa cosa: 1000 euro sono 1000 ethics, perché un euro è uguale a un ethics. Il conto di Eugenio, lui ha comprato, va giù di 1000, lui è in debito. Quello invece dell'azienda, c'è qualcuno tra di voi che produce vini? Nessuno. Quello dell'azienda invece cosa fa? Va su di 1000. Ma tra di loro non c'è uno scambio di euro. C'è, la moneta diventa un fatto contabile. Io registro meno 1000 da una parte, più 1000 dall'altra. Questa è la moneta. Non è che lui compra i vini e poi gli dà gli euro emessi da una banca. No, la banca qui non c'entra più. Semplicemente il sistema registra meno 1000 da una parte e più 1000 dall'altra. D'accordo? Ok. Eugenio ora è in debito. Ma è in debito con chi? Il rapporto non è bidirezionale. È con tutti. Brava, è con tutti. Cioè lui, per estinguere il suo debito, nel momento in cui qualcuno viene qui all'agriturismo, lui può estinguere il suo debito. Quando lui vende i suoi servizi agrituristici, a chiunque faccia parte del circuito, il suo debito si riduce. questa è la moneta. Capite che c'è un salto enorme, no? Cioè la moneta viene ridotta alla sua essenza. Cosa fa? Misura, semplicemente misura. Misura di che cosa? Del valore, del bene che ci si scambia. E come lo misuriamo? Con questa unità di misura che è l'euro. Ma non è che abbiamo bisogno di euro. Abbiamo bisogno dell'euro che è ridotto a un'unità di misura. Non deve essere emesso da una banca. Perché attenzione, la maggior parte della moneta che circola è moneta bancaria, non i contanti, Moneta bancaria, cosa significa? Io vado in banca e chiedo un prestito, voglio mettere in piedi un'attività, chiedo un mutuo perché devo mettere su casa e chiedo un prestito alla banca. La banca, tutti noi pensiamo, ci abbiamo in mente che la banca sia un istituto di intermediazione bancaria. Cosa significa? Significa che altri portano i soldi lì in deposito e la banca fa prestiti con i soldi che altri gli portano. E no, non è così che funziona la banca. La banca, se decide di concederti il prestito, perché ora le banche purtroppo fanno un sacco di altre cose che aiutare l'economia reale e le persone reali, investono o ti fanno investire nell'economia finanziaria, ma insomma la banca, se ti concede il prestito, usa quella che si chiama moneta scritturale, scrive semplicemente sul tuo conto quella cifra, poi sei tu che ti danni a lavorare e a inverare quella moneta. Questo, capite, è un vantaggio enorme per le banche. Si chiama in termini tecnici signoraggio di emissione. Nel nostro caso il signoraggio di emissione, ma anche quello di circolazione di cui poi parliamo, diventa un vantaggio di tutti nella rete. Perché? Perché quando voi entrate come, se entrate come azienda, come artigiano, come produttore di beni, beni possono essere beni materiali, servizi, eccetera, no? Vi viene assegnato, ecco, quel signoraggio di emissione, vi viene assegnato 3500 ethics. Anzi no, scusate, 5.000 ethics che potete immediatamente spendere. Cioè tu decidi, l'agriturismo decide di far parte del circuito, gli vengono assegnati 5.000 ethics. E questi 5.000 ethics non sono gratis, attenzione, ma sono senza interessi. Immediatamente Eugenio potrebbe spenderli. Cioè lui può spendere prima di vendere, può comprare prima di vendere, ha subito 5.000 ethics a disposizione. Se fa richiesta e ha, diciamo, una struttura economica solida che glielo permette, lui può avere entrando sino a 35.000 ethics. D'accordo? Che è una facilitazione commerciale, ma che è anche una sorta di prestito. Lui può immediatamente spenderli. Naturalmente, come farà a pagarli? Con la sua attività. Cioè lui, man mano che fa la sua attività, ecco che può compensare quel prestito che tutta la comunità, non una banca, tutta la comunità gli ha fatto. Okay. Allora, perché vedete che stiamo descrivendo un altro mondo dal punto di vista economico, per cui dobbiamo entrare pian piano, soprattutto ci si entrerà con la pratica, che questo è un mondo che è già strutturato, Però entrarci, siccome è un altro mondo dal punto di vista economico, ci vorrà del tempo e soprattutto la pratica poi per capirlo, capirne i vantaggi. Allora, dicevamo, chi può entrare nel circuito? Abbiamo detto gli associati come consumatori semplici, abbiamo descritto il loro vantaggio. Poi abbiamo detto tutti i produttori di beni e servizi, quindi possiamo elencarli, non so, l'artigiano, il professionista, non so, il dentista, Trivelli, che è qui, vuole entrare, entra dentro il circuito, no? Offre i suoi servizi, l'avvocato, il commercialista, tutti i professionisti che vi potete immaginare, il circuito li può accogliere. Le microaziende, le cooperative, le associazioni, importante anche questo, le associazioni possono offrire servizi, per esempio servizi educativi, di trasporto, tutte cose a cui abbiamo cominciato a pensare quando ci hanno impedito, o anche servizi di cura, quando ci hanno, abbiamo visto che tante persone gli è stata sbarrata la strada, no? Quindi anche le associazioni possono essere, il circuito è predisposto per accoglierle, quindi offrono i loro servizi e possono essere pagati in ethics sia dai privati che se hanno scambi con altre aziende. Allora riprendiamo il rapporto tra le aziende che stanno dentro il circuito, che le aziende che stanno dentro il circuito hanno scambi tra di loro e hanno scambi con gli associati. Gli associati, allora, per le aziende perché è importante? Chiediamoci questo. Perché è importante stare dentro il circuito? Un'azienda entra, ha già la sua clientela, no? Però se entra dentro un circuito dove ci sono tantissime altre aziende che hanno deciso di servirsi del circuito monetica, la sua clientela potenziale si allarga. E quindi questa è la prima cosa. Sono un professionista, a questo punto immaginiamo appunto Trivelli, dice io faccio la mia attività professionale, accetto ethics. C'è la targhetta che ti dice qui si accettano ethics, il mio studio è inserito dentro il circuito, quindi mi puoi pagare in ethics. Ti sta dicendo che se tu hai un conto di 1300 euro, ti costano 1000 euro. Se nel suo listino risulta 1300 euro, tu come associato con 1000 euro ti procuri 1300 ethics e lo paghi. C'hai un aumento del potere d'acquisto del 30%. Ma lui che vantaggi ha? Beh, il primo vantaggio lo state vedendo. Molte persone si rivolgono a lui per dire ma se vado da lui spendo meno, no? Lo pago in ethics. Ecco. Che altri vantaggi ha? Ma se lui trova dentro il circuito dei suoi fornitori, ecco che con questi fornitori fa gli scambi in ethics. Allora, anche qui, non è costretto a fare scambi completamente in ethics. Diciamo di default, cioè quando si entra dentro il circuito, io posso decidere, cioè loro ti dicono, guarda, il 50% lo fai in ethics, il 50% in euro, d'accordo? Se poi vuoi, è una tua decisione, anzi è una vostra decisione quando fate, potete fare lo scambio anche completamente in ethics. Se non vuoi farlo completamente in ethics, devi fare richiesta e puoi anche fare solo il 20% in ethics. L'80% lo fai in euro. Se invece vuoi, puoi fare tutto in ethics. Cioè c'hai, diciamo, dei gradi di libertà. D'accordo. Allora, e questa è una prerogativa di Monetica. Non solo. Ora vediamo il rapporto tra gli associati e le aziende che stanno dentro il circuito. Dunque, l'associato si rivolge all'azienda che sta dentro il circuito, al professionista, eccetera. E immaginiamo che l'azienda, alla fine del mese, si sono rivolti a lui tanti associati semplici, tanti consumatori, e ora lui ha 10.000 ethics che gli sono arrivati dagli associati semplici. Quindi lui alla fine del mese si ritrova questi 10.000 ethics. Naturalmente questi 10.000 ethics come li può spendere? Li può spendere presso gli altri, cioè lui ha questo conto di 10.000 ethics, se ha dei fornitori li spende presso i fornitori, no? Che sono gli altri che stanno dentro il circuito. Però, ecco, questo succede solo in Monetica e in Butterfly, per quello vi dicevo che è più evoluto. Se avesse bisogno di euro, siccome gli euro sono arrivati dentro il circuito che l'hanno portati tutti i consumatori semplici di associati, l'azienda può ottenere sino al 60%, li può convertire questi 10.000 ethics per il 60% in euro. Gli altri 4.000 ethics li deve spendere assolutamente dentro il circuito. Va bene, prego. In questo cambio inverso. Sì. 130 ethics, 100 euro. No, no, no. Allora, in questo cambio inverso, cosa succede? Allora, se io metto 100 euro, ricevo 130 ethics. Sì. Se ho bisogno di 100 euro perché mi è arrivata... Faccio un... Diciamo per assurdo, no? A questo agriturismo a un certo punto pagano tutti in ethics. Vabbè, sì. Alla fine del mese io ho 50.000 ethics, ma arrivano 3.000 euro di bollette, no? E in qualche modo restiamo. Allora, sì, forse mi dica se ho capito, perché non bisogna confondere. Io posso scambiare gli ethics in euro solo quelli che mi arrivano dai consumatori semplici. Non posso scambiare gli ethics che sì, mi arrivano dallo scambio tra le aziende, perché dove li piglia il sistema questi euro? Il consumatore, perché se io vengo qui come consumatore pago in ethics, sì. La struttura riceve da me, sì. Consumatore, 130 ethics, giusto? No, riceve da lei 100 euro. Che dentro il circuito diventano 130 ethics, va bene? Cioè lei come consumatore semplice cosa può fare? Lei può guadagnarsi gli ethics, abbiamo detto, in due modi: o comprandoli spendendo euro. Tra l'altro vi dico, ci sarà molto probabilmente un'altra possibilità. Immaginiamo che lei si è procurato, dicevamo prima, per salvaguardarsi, no? Cosa dicevamo prima, cosa faccio? Mi compro gli franchi svizzeri. Ora, qui la cosa, io mi sono interrogato su questa cosa stamattina, infatti ho già scritto a Vito, dico, ma perché non facciamo anche questa cosa, no? Perché se l'euro va giù siamo un po' fregati. Ma allora, se la gente, come sta cominciando a fare, cerca di premunirsi comprando una moneta più stabile, e poi non può usare questa moneta per comprare ethics? Non so se intravedete, io non lo so se ancora è possibile, ho chiesto a lui, ora aspetto che mi risponda, perché questo significa che se l'euro va giù, il sistema è in grado anche di proteggerci, perché noi con gli euro, prima che vadano giù, compriamo un'altra moneta e con quella moneta possiamo comprare ethics. Questa era l'idea che mi è venuta stamattina. Ho detto, cioè sarebbe come uscire dall'euro stando dentro l'euro mentre l'euro sta collassando. Tenete presente che Ora, tenete presente che il circuito è predisposto per accogliere aziende. Sardex è nato regionale, no? Poi è diventato un metacircuito, ci sono tante regioni coinvolte, ma Monetica nasce già su scala nazionale ed è un circuito di circuiti, cioè a dire, se prendesse piede in questa zona, che è l'ideale, significa che io esco di casa e trovo il professionista dove c'è scritto qui si accettano ethics, l'abiturismo dove accettano ethics, vado, mi serve chi mi vende frutta e verdura che mi dice qui si accettano ethics. Cioè l'ideale qual è? Quello di avere un circuito di circuiti. Ma attenzione, dentro questo circuito possono entrare anche aziende che si trovano fuori dall'Italia. Per esempio c'è un'erboristeria che si trova attualmente dentro il circuito ma che è in Inghilterra. Cioè predisposta agli scambi anche tra piccole aziende che si trovano fuori dall'Italia. E tutto è strutturato secondo le norme europee e secondo le norme italiane. Prego, voleva chiedere qualcosa. Mi riaggancio, la risposta non l'ho avuta, insomma. Mi dica. No, tornando al discorso, no, questo agriturismo riscuote solo ethics, in ethics, o da clienti che possono essere anche semplici consumatori, quindi lui si ritrova con 20.000 ethics alla fine del mese. Come fa lui a pagare le tasse, no? Per assurdo, no? Riscuote solo ethics perché qui vengono solo consumatori ethics. Come fa lui poi a pagare le tasse, le sono lecite, eccetera? Sì. Ha detto lei, può cambiare, giusto? Sì. No, allora ridiciamolo in maniera ordinata, sì. Ridiciamolo in maniera ordinata. Immaginiamo che questo agriturismo sta dentro il circuito. Allora, sta dentro, prima cosa, sta dentro con un piede, ma sta anche fuori con l'altro. Okay. Nel senso che se qui viene qualcuno che non è dentro il circuito, continua a pagare in euro. Ciao! Però mi faccia dire per il piano, poi alla fine fa le sue obiezioni. Allora, l'agriturismo sta con un piede dentro e con un piede fuori, quindi prima cosa teniamo presente, lui continua a farsi la sua economia in euro e in parallelo avrà un'economia in ethics. Ma ora concentriamoci su quella in ethics. Quindi gli euro continuano ad arrivargli dai suoi clienti che non stanno dentro il circuito e che gli portano euro. D'accordo. Poi, se sta dentro il circuito, avrà dei clienti che gli portano ethics, clienti privati, non altre aziende. Ok, questi clienti privati, abbiamo detto il 60% di quello che gli portano possono diventare euro, l'altro 40%, come dice lei giustamente, li deve spendere dentro il circuito, localmente, a distanza, li deve spendere dentro il circuito. Gli scambi che ha con le altre aziende, lo dicevo prima, decide lui. Allora ha tutta una serie di possibilità. La prima possibilità, diciamo quella massima, se lui vuole più possibile euro, gli viene consentito nello scambio, si deve trovare d'accordo con il suo fornitore, fino all'80%, abbiamo detto, lui può chiedere euro e solo il 20% ethics, quindi può limitare al massimo. Normalmente appena entri ti viene detto 50% ethics e 50% euro. Chi vuole, che questa è la direttiva, chi vuole può anche fare il 100% in ethics. Naturalmente se tu c'hai ethics che ti vengono dallo scambio con altre aziende o con professionisti eccetera, questi li spenderai dentro il circuito, non li puoi convertire in euro, perché chi li dà alla rete gli euro? Solo quelli che vengono dall'esterno portano gli euro. Naturalmente è così che va avanti l'economia del circuito. Però guardi cosa succede. Una cosa importantissima. Se lei fa scambi dentro il circuito con altre, immaginiamo che lei è un costruttore e qualcuno che sta dentro il circuito gli chiede un lavoro di ristrutturazione edilizia e lei esegue questo lavoro, immaginiamo per un valore di 7.000 euro, il suo conto va su di 7.000 ETX. D'accordo? Normalmente il costruttore si sente dire molto spesso, cioè guarda sì il lavoro me l'hai fatto però te li do pian piano, oppure andiamo in banca, faccio, come si dice, me li faccio prestare dalla banca, oppure te li do pian piano, oppure ti dice guarda ti pagherò appena mi entrano, mi devono pagare, appena mi entrano te li do. C'è una dilazione della remunerazione che accade spessissimo, sempre di più. Cosa succede invece dentro la rete? Lei consegna il lavoro, immediatamente il lavoro viene riconosciuto, lei quei soldi li può spendere subito, immediatamente. Com'è? È l'altro che va giù di 7. Sì, l'altro va giù di 7. Però, ecco, il rapporto, siccome non è bidirezionale, quello che va giù di 7 ha la possibilità di, vendendo a chi gli chiede i suoi prodotti, ha la possibilità di rifarsi, di ritornare in pari. E se, prego, prego. E se lui dice, io voglio uscire, a quel punto... Allora, se vuole uscire, lui deve risanare i suoi debiti. Sì, non può uscire. No, non può uscire se non risana. Li risana in euro, esatto, sì. Per forza, sì, sì. Oppure si può prevedere cosa succede se una persona fallisce. Anche lì. Quanto puoi... Perché immaginiamo una situazione per cui uno... compra, ma non trova mai da vendere. Si può indebitare all'infinito? No. Al massimo ti indebiti fino a quei 5.000 ETX di cui parlavamo, al massimo. Poi, se proprio fallisce, vai in stato di liquidazione avviene normalmente, nel senso che tu quando vai in stato di liquidazione con quello che rimane dalla tua struttura paghi i tuoi debiti, ma al massimo dentro la rete tu ti puoi diciamo indebitare per quel valore di 5.000 ETX per tutti. Se poi hai chiesto i 35.000 e ti sono stati dati, c'è una ragione per cui ti sono stati dati, si utilizzano le stesse tecniche che utilizzano le banche. Dicevo, Vito Umberto Lavalli non è uno qualsiasi, utilizza, cioè fa un'analisi della capacità economica, del patrimonio, della solvibilità, eccetera. In quel caso tu ti puoi indebitare fino a 35.000 ETX. No? Quel 35.000 è scelto ad hoc perché ti mantieni nella sotto il target del microprestito, che è credo sui 40.000, insomma, dove le cose cambiano se si supera quella certa cifra. Quindi in quel caso, se fallisci in quel caso, ma si prendono tutte le precauzioni perché non succeda, è chiaro che in quel caso ricade su tutta la comunità quella perdita. Naturalmente quella perdita non sarà una perdita totale, perché l'azienda che fallisce va in stato di liquidazione, dicevamo, e il più possibile si recupera. Prego, la sua domanda. No, cioè, ovviamente qui si parla sempre di aziende, artigiane. Io non produco niente perché sono dipendente, no? Quindi entrerei come semplice acquirente di EFIS, giusto? Sì. Sistema mi piace, sono un entusiasta, compro subito 5.000 EFIS, no? Perché è vero che credo nel sistema. No, no, non può, 5.000 non può. No. Può al massimo 3.500 al mese. C'ha la ragione per questo. Cioè lei può spendere al massimo 3.500 euro dentro la rete e avere 3.500 ethics più il 30% di 3.500 ethics. E facciamo il conto che è più di... Vabbè, diciamo, io acquisto 3.500 ethics perché sono convinto, no? Poi in realtà entro nella rete e come acquirente vedo che quel dentista lì mi piace perché la prima volta che ci vado... Poi col nome che c'ha, oddio se mi sente lui. Vabbè, poi non bevo e quindi non conto io, cioè, però alla fine, ma ancora mi ritrovo 3.500 ethics che non sono in grado di spendere perché non sono più soddisfatto. Se volessi uscire come semplice associato. Lei può uscire. Allora, prima di tutto, se lei entra in un posto che non conosce, non penso che spenderà il massimo possibile. Lei farà, non è a caso che gli viene dato 5 ethics in omaggio appena si iscrive. 50 ethics gli vengono dati come, come dirti, intanto prova, non ci mettere soldi tuoi, c'hai 55 ethics sul conto social, si chiama così, e prova. Tu provi, ma nessuno ti chiede nulla, non devi, se te ne vai, cancelli l'applicazione, non devi restituire quei 50 ethics, anche se ti sei comprato delle cose. Ok. Allora poi, invece immaginiamo che tu provi, scusa ti sto dando del... Allora, immaginiamo che tu provi e ti piace. Sì. Allora dici, ma quasi quasi, ci metto 100 euro, vediamo che succede, no? Ci metti 100 euro, ora c'hai 130 ethics. E vedi che c'è, tra l'altro c'è qui, mi pare, una con le salvette. Insomma, e cominci a usarlo. Se ti piace, puoi continuare. Non ti piace o non trovi acquirenti, non continui. Tra l'altro, dicevamo prima che la condizione ideale qual è? Quella che esci di casa e trovi nelle tue relazioni economiche molti che fanno parte del circuito. Cioè il circuito diventa un circuito nazionale, dicevamo anche fuori dall'Italia, ma anche un circuito locale. Prego. Come si trovano i nomi di quelli che sono? Allora, prenda il cellulare. Se chi lo vuole fare, facciamo questo piccolo esperimento. Prendete il cellulare, quelli che ci avete il collegamento a internet e volete farlo. Se allora, scaricare l'applicazione, vi dicevo, vi garantisco in maniera assoluta che come l'avete scaricata la potete... Cioè, voglio dirvi, non è il Green Pass, ecco. È tutt'altro che il Green Pass o l'App io o tutte quelle diavolerie che... Okay. Allora, l'elenco di chi è nel circuito soltanto tramite l'applicazione. Esatto, sì, sì, lo potete fare via computer. Allora, lo facciamo per chi vuole farlo, d'accordo? Chi non vuole farlo, poi eventualmente deciderà se farlo successivamente. Allora, chi ha Android naturalmente va sul Play Store. Chi ha l'iPhone va sull'App Store e scrivete Monetica con la, dopo la T la H. Viene Monetica SRL. Esatto. Monetica. Sì, allora c'è un simbolo, cioè il logo è una M con delle frecce circolari intorno. Sì. Ok. Allora, quello lo scaricate, d'accordo? Poi dovete iscrivervi. Quando vi iscrivete vi chiede le vostre generalità, nome e cognome, chi sei, partita IVA se ce l'hai, oppure ma voi introducete solo il codice fiscale, introducete il codice fiscale. vi si chiede il codice fiscale perché questi 55, perché uno potrebbe fare la pensata, dice ora sai che faccio, tanto 55 etics, ogni volta che mi scrivo mi danno 55 etics. Vado avanti però così, si no? Continua a fare come si faceva ora, basta. Allora, dove c'è scritto presentato da, potete scrivere Francesco Cappello, lì scrivete Francesco Cappello, dopodiché dovete dare una mail e il una vostra password che poi userete per tornare dentro il circuito. Naturalmente quando vi siete iscritti e avete compilato tutto, poi dovete andare nella mail, come succede, per confermare l'iscrizione. A quel punto la vostra applicazione è attiva. Allora, cosa succede? C'è un campo come quelli, non so, come quando su Google scriviamo un motore di ricerca, ecco. Allora, voi scrivete per esempio agriturismo. Ah, ti chiede di geolocalizzarti, dovete concedere la geolocalizzazione, altrimenti l'applicazione non funziona. Perché? Perché l'applicazione vuole vedere dove siete e tu chiedi, puoi chiedere per esempio, interrogare il motore di ricerca e gli dici quali sono gli agriturismi che si trovano in un raggio di 200 km da dove mi trovo io. E te li indica, dice guarda, nella rete ci sono questi. Cosa significa? Che tu li puoi consultare e puoi prenotare una camera, quello che vuoi, e pagarli in ethics, avendo quell'aumento del potere d'acquisto di cui parlavamo, no? Quindi questo è già possibile. Non ti piace, ti fa schifo? Cancelli l'applicazione. Ci ritorni, te ne penti? Ti ritrovi lì dentro con quel tuo nome e cognome, e soprattutto perché sei identificato dal codice fiscale. Quindi tu vuoi continuare a usarla? Immaginiamo che l'hai spesi tutti quei 50 ethics. Nel momento in cui la ricarichi, ti vengono addebitati quei 50 ethics. Invece non ne vuoi più sapere nulla, nessuno ti verrà a chiedere i 50 ethics che magari hai già speso dentro il circuito. Quindi diciamo è una prova che fai. Vi devo dire un'altra cosa. Allora immaginiamo che mettete all'inizio, quando fate la prima ricarica, ma solo una tantum, vi viene chiesto 10 euro di iscrizione. Solo la prima volta, poi siete iscritti, non vi chiede più nessuno niente. Ok. Allora, immaginiamo che siete iscritti, fate una ricarica di 200 euro, ricevete 260 ethics. Attenzione, 40 di questi ethics li potete spendere, facciamo degli esempi, presso Kuwait, presso IP, presso Tamui, per fare benzina o gas, d'accordo? 40 di questi. Cioè, l'aumento del potere d'acquisto, se io metto 200 euro, abbiamo detto, mi diventano 260 ethics. 40 di questi, praticamente mi viene gratis, possono diventare o benzina, o gas, o c'è anche Trenitalia dentro. Ci sono anche altri, d'accordo? Praticamente posso fare il biglietto e come funziona? Ci sono, questo lo potete fare subito, ci sono, se mettete 100 euro, qual è però diciamo la controcosa? Abbiamo detto, io ho messo 200 euro, ricevo 260 ethics, vado dal benzinaio e faccio il pieno. Non vado da un benzinaio qualsiasi, deve essere o IP o Tamoil, sono quelli diciamo convenzionati, o l'altro era Kuwait, d'accordo? Ce ne sono diversi. Ma lui dice qualunque benzinaio, anche se della Liberia. No, non qualunque benzinaio, qualunque benzinaio che sia un benzinaio IP, che sia un benzinaio Kuwait o un benzinaio Tamoil. Perché è la perché sono convenzionati con monetica. Come è stato sì. possibile? È stato... Ci abbiamo dietro... Perché guardate, allora uno potrebbe dire... Dice, ma ci sono delle cose che noi non riusciamo a produrre. Ora, c'è qualcuno di noi che sa produrre la benzina? No, non ci arriviamo a questo, no? Ecco la convenzione con il vantaggio, no? Ho qualcuno di noi che vuole servirsi di Trenitalia, cioè che riesce a inventarsi, ecco. Allora, in questo senso ti offre queste possibilità il circuito. Come funziona? In maniera semplice. Io personalmente l'ho fatto. Allora, sono iscritto come consumatore, ho messo quei 100 euro e nel caso di 100 euro, 20 euro li puoi spendere così. Vai lì, ci sono questi buoni, scegli il taglio e dici io acquisto un buono IP o Tamwilo Kuwait e ci sono i vari tagli 5, 10, 20, 25 e tu sai che puoi arrivare al massimo a 20 se hai messo 100. Lo acquisti, quando vai dal benzinaio, se il benzinaio sceglie lo fai vedere, perché c'è il modo anche di spenderlo senza che ci sia il benzinaio, però in queste cose bisogna saperci fare, no? Ma tutte cose che abbiamo imparato, sì, c'è il, ti compare un numero grosso così con un codice di verifica, lo devi inserire e il sistema te l'accetta. Oppure c'è il benzinaio, gli fai vedere l'applicazione, gli detti il numero, è un numero di non so quante cifre, una decina di cifre, e poi c'è un codice di conferma. Io l'ho fatto diverse volte, il benzinaio lo sa e in quel modo hai pagato. Però la benzina ti è venuta gratis. Qual è la cosa però? Tu hai messo 100 euro, ti hanno dato 130 etix, 20 di questi sono diventati benzina, e gli altri 110? Li devo spendere dentro il circuito. Posso convertirli in euro? No. Li devi spendere dentro il circuito. Allora, se c'hai qualcuno dentro localmente, li spendi facilmente. Monetica diventa anche una specie di Amazon italiana, nel senso che io vado a vedere, prima parlavamo dell'agriturismo entro 200 km e vabbè, vado e spendo lì, ma se mi devo far spedire qualcosa, immaginiamo da un'erboristeria, me la faccio spedire, ma a quel punto io sto avvantaggiando un'azienda italiana e l'Amazon è italiana, è nostra ed è una cosa ben diversa. Ora c'è un'altra cosa, c'è un'altra figura, perché abbiamo parlato di due figure dentro il circuito, il consumatore semplice e l'azienda. L'azienda, quando diciamo azienda dovete pensare a tutto, loro infatti li chiamano con termine inglese e-point, così li chiamano, perché è predisposto anche ad avere a che fare con l'estero, no? Quindi si usa anche una terminologia in inglese. Allora, ma è tutta roba italiana questa, eh? E siamo i primi al mondo, perché questo Vito Umberto Lavalli di cui vi parlavo è uno che negli ultimi, con la competenza che ha, ma guarda, ti mando, perché io sono rimasto impressionato. Ti mando il suo curriculum vita, perché uno si rende conto di chi cavolo è questo qui. Se ha creato RID, SEPA, sì, l'internet banking, eccetera, tesoriere dell'ENI. Intervista di poco fa. L'ho fatta poco fa, sì, con lui e con Guido Grossi. L'ho trovato. Sì, sì. Infatti ora l'ho intervisto, che lui dice Monetica c'ha 10 innovazioni di prodotto e di processo rispetto a tutti gli altri sistemi di questo tipo, cioè è una cosa italiana di eccellenza, ciò se è chiaro, non è una cosa artigianale, cioè non è una cosa... allora dentro ci sono quelli che hanno inventato lo shake, e lo ascolto che cammina, È come se lo check stesse dentro il sistema, ma non si riduce ad esso. Che ne so, l'idea della banca del tempo c'è dentro. Cioè, a dire, io, dicevamo prima, il rapporto può essere anche peer to peer, da pari a pari. Tu vieni a casa mia, fai il mio giardino, ci mettiamo d'accordo sul prezzo, ti pago in Etex, tu ti rispendi poi dentro il circuito. Ti voglio fare un dono? Te lo posso fare in Etex. Ti do questi Etex, posso fare tranquillamente. Ti do questi Etex e ti rispendi dentro il circuito. Dal punto di vista tecnico si chiamano buoni corrispettivo multiuso. Ci ho messo un po', però per dirvi che è una cosa prevista dalla normativa. Nella normativa che riguarda i voucher che lui utilizza, no? Allora, mi sono perso, no, vi stavo dicendo qual è la terza figura, perché abbiamo detto, poi magari facciamo una piccola pausa, non so, perché vi voglio parlare anche di filiere virtuose, è importante. Se avete qualche domanda poi? Sì, poi sì, la facciamo, però per completare diciamo una... Allora, c'è la terza figura, che è una figura importantissima, perché abbiamo detto c'è l'associato semplice, cioè il consumatore, quello che si serve del circuito per comprare, c'è la lead point, che può essere un professionista, la microazienda, l'artigiano, la cooperativa, l'associazione, che produce beni e servizi e rimette a disposizione degli scambi dentro il circuito. Benissimo. C'è una terza figura, ed è il promotore del circuito. Chi può essere promotore del circuito? Tutti. E perché è importante? Immaginiamo che qui a Colle ci siano dei ragazzi, li incontriamo, non sanno bene cosa fare, gli spieghiamo il circuito e gli diciamo: guarda, puoi fare una tua attività laterale, tu fai le tue cose normali, però questa è la tua attività. Sei incentivato a far crescere il circuito localmente. Cioè tu puoi fare un'attività lavorativa o semilavorativa, se sei studente continui a fare lo studente, se sei lavoratore in un altro campo continui a farlo, ma se ti piace questa cosa la puoi fare. E sei incentivato a farlo, nel senso che Monetica ridistribuisce la ricchezza, però deve trovare le condizioni per crescere, perché tutti avete capito che se io entro dentro il circuito ma poi trovo il deserto, allora il circuito deve crescere localmente e poi contemporaneamente deve essere un circuito di circuito, circuiti locali che possono scambiare su scala nazionale ma anche con aziende fuori dall'Italia. C'è qualcuno già del Portogallo, c'è qualcuno che pare svizzero, quindi capite che è anche un sistema per difendere le micro aziende italiane che si trovano nel marasma più nero, no? Per difendere cioè il nostro tessuto produttivo. Allora, a questi ragazzini, ma non devono mica per forza essere ragazzini, chiunque di noi può fare il promotore in maniera tale da contribuire a far crescere il circuito locale. Allora immaginiamo che c'è questo ragazzo, fa la sua università, sta studiando e contemporaneamente fa questa attività laterale. Cosa gli viene detto? Se tu fai entrare un professionista dentro il circuito, siccome è un vantaggio per tutti, allora a questo ragazzo gli vengono dati per ogni e-point che fa entrare 45 euro. Non Etex, euro. Se poi lui vuole si riconverte in Etex, se invece gli servono gli euro si ritiene in euro. Ma attenzione, non è finita, gli viene dato anche per tutte le transazioni che quel professionista farà dentro il circuito lo 0,6% di ogni transazione. Quindi comunque sempre in euro o in Etex? Sempre, allora, qui mi fai una domanda che mi trovo impreparato. però lo 0,6% credo che sia in ethics o forse in euro, non lo so, lo devo verificare. Domanda: in euro, quindi quell'euro che viene dato al promotore viene preso dagli euro che i consumatori... No, allora no. Qui dobbiamo parlare di come si fa a entrare come azienda, come e-point, dentro Monetica. Allora, quando l'azienda entra c'ha tre possibilità. Hai fatto bene a farmi questa domanda. Che poi dobbiamo parlare anche della piattaforma commerciale dell'e-commerce. Allora, diciamo cosa sono. Allora, sì, infatti ci vuole un po'. Allora, immaginiamo che lui vuole entrare. C'ha tre possibilità per entrare. Quella piena paga 500 euro, euro non ethics, più l'IVA, d'accordo? E lui entra, dice ma cosa riceve? Ora sta dentro il circuito, riceve 5.000 ethics di facilitazione commerciale, come un prestito, però senza interessi, estendibile, se ne avesse la forza lo può richiedere, a 35.000 ethics. Per un attimo vorrei chiedervi, quanti di voi sono andati in banca a chiedere 35.000 euro di prestito? Ve lo danno senza interessi? E cosa vogliono in cambio? Allora, qui tu entri, spendi 500 euro più IVA, hai la possibilità di avere subito e immediatamente, hai 5.000 ethics che puoi spendere. Più stai dentro questa piattaforma commerciale e ora è in costruzione un e-commerce. E-commerce cosa significa? Che i tuoi prodotti, tu avrai una tua vetrina, tutti quelli che stanno dentro vedono cosa produci. Ancora non c'è, è in costruzione. Ancora c'è una piattaforma commerciale di quella di cui vi parlavo, il motore di ricerca, è molto spartano per ora, però stanno costruendo un e-commerce di alto livello, di quelli che vedono come ti comporti, cosa cerchi e ti fanno le loro proposte, ti dicono guarda, tu stai cercando questo, nella rete c'è Tizio, Caio, cioè usa addirittura le tecnologie più moderne, ma a nostro vantaggio, d'accordo? Cioè a dire, ti aiuta a vedere ciò che ti serve, vede cosa tu stai cercando, come ti comporti e ti suggerisce. Guarda che nella rete c'è il tizio che è più vicino. Prima di rivolgerti, stai cercando una certa cosa? Prima di rivolgerti a quello che sta più lontano, valuta se ti interessa quello che sta più vicino a te, cioè di prossimità, diciamo, un'economia di prossimità viene incentivata. Ecco, allora, questo è il modo pieno di entrare. C'è un altro modo: tu entri e hai lo stesso questi vantaggi di cui stiamo parlando, ma spendi solo 200 euro più IVA. Gli altri come li dai per completare la tua quota di adesione? Sono 400 ethics, li dai in ethics stavolta, stai dentro il circuito, le prime cose che vendi non sono tuoi fino al valore di 400, vai a completare la quota di adesione, d'accordo? Poi c'è un'altra modalità per quelli molto, dice ma io non mi fido, non ci metto dei soldi, tanto però voglio entrare senza spendere nulla. Entri senza spendere nulla, però non hai i 5.000 ethics, c'hai solo la piattaforma commerciale e quando verrà l'e-commerce non c'hai l'e-commerce, quindi sono servizi aggiuntivi, no? Però dici intanto ci metto un piedino, poi eventualmente se mi interessa, se ho bisogno del prestito, se no, ma tu puoi entrare anche senza spendere nulla. Poi eventualmente ti rifai dopo, spenderai dopo se la cosa ti convince. Quindi, vabbè, la panoramica l'avevo fatta, naturalmente ci sono tutta una serie. Prego. Una cosa molto semplice. Prego. Per entrare nel sistema e usarlo anche come consumatore ci vuole lo smartphone. Senza smartphone non si entra, si fa. No, non si entra senza smartphone. Okay. Se lei è senza smartphone non può entrare nel tuo circuito. si era valutato, però mi hanno detto ci sono tutta una serie di complicazioni per avere una carta. Cioè entro, ho una carta, vado nel negozio, una carta diciamo in ethics. Questa per ora è una possibilità che stanno valutando. Pare che ci siano tutta una serie di difficoltà o di controindicazioni. Per ora la cosa che vedono è questa, ci vuole lo smartphone, sì, o l'iPhone, per scaricare l'applicazione e fare gli acquisti, fare quel paga, o diciamo ricaricare il tuo conto. Poi per chi fosse interessato voi potreste anche, perché c'è chi propone anche moneta cartacea nuova e sono gli auri, però bisogna fondare un'associazione. Dietro gli auri ci sono gli euro, c'è tutta una modalità di funzionamento, c'è una scontistica di cui gode, però eventualmente se siete interessati io vi metterei in contatto con Nico Arena, uno dei fondatori, okay, l'ho invitato, lui è molto volentieri, vi spiego come funziona gli auri, non sono gli euri ma gli auri. E lì però per fare un circuito locale, oppure se foste interessati, ho un tablet a casa che va solo con wifi, parli a lui. Ah no, facciamo un momento di sì, no, ma per dire insomma ci sono altre possibilità. Io vi sto parlando di quella che a me sembra la più evoluta, che è su scala sia locale che nazionale e anche oltre, che ha diciamo tutte queste innovazioni di processo di prodotto di cui bisognerebbe parlare. E oppure uno può pensare, ora c'è anche Toscanex, ma siamo nell'ambito del Sardex, il modello è quello. Tutto quello che vi ho spiegato lì non c'è, cioè non è che il consumatore entra comprando Sardex, non esiste. Non è che dentro Sardex ci sono solo gli scambi tra imprese, eccetera, però non possono ottenere euro, d'accordo? Proprio perché il consumatore non è previsto che il consumatore possa comprare Sardex spendendo euro. La stessa cosa nelle reti di mutuo credito. Per quello vi dico, questo è quello più evoluto, perché è strutturato in maniera che permette la conversione, limitatamente ai vincoli che abbiamo detto, dagli ethics agli euro. Prego. Una conferma. Quindi all'interno di Monetica uno potrebbe entrare, avere la partita IVA, quindi svolgere diciamo in parte diciamo, l'attività di partita IVA, regime proprietario, sì, e in più svolgere però anche l'attività diciamo, di scambio con i consumatori. Sì, certo. Svolgere cose entrambe. Possibili in Sardex, ad esempio. Sì, esatto. Certo. Ma allora, in Sardex c'è una cosa buona che c'è anche in Monetica. Se io sono un'azienda, per esempio, questo agriturismo ha dei dipendenti. Allora, al dipendente, sia quello di Sardex che quello di Monetica, gli dice, sai cosa c'è? Ti do lo stipendio normalmente in euro, ma una percentuale, ci mettiamo d'accordo, oppure un aumento, te lo do in ethics. Tanto tu lo spendi qui localmente, lo spendi nel circuito, ti vai a fare la vacanza da qualche parte. Oppure, e questa è il welfare aziendale. Welfare aziendale, ci sono le leggi che lo prevedono, no? Allora, quella più evoluta, prima quando il datore di lavoro dava un aiuto al dipendente, veniva tassato lui e veniva tassato il dipendente. Poi con la nuova legge, diciamo, se ti do 100 ricevi 100, ma il welfare aziendale dentro Monetica è ti do 100 ricevi 130. Questo è il welfare aziendale dentro Monetica. C'è un'altra cosa, io sono un dipendente di un'azienda che sta dentro la rete e ho, che ne so, ho spese improvvise, l'altra volta dicevo, devo sposare la figlia, devo andare da... Prego, mi ha salutata. Sì, arrivederci, grazie. Allora, ho delle spese improvvise, posso chiedere al mio datore di lavoro un anticipo, dice devo sposare la figlia, mi servono 6.000 euro. Il datore di lavoro dice guarda, ti ridò in Netflix, così sai cosa c'è, li spendi qui tra di noi dentro il circuito, no? Anticipazione dello stipendio te la posso dare in Netflix. E questo succede dentro Sardex, succede dentro Monetica, può succedere. Ma Monetica, attenzione, permette di trasformare in Netflix anche l'attività tra pari e pari. Cioè, la cosa che dicevamo prima, naturalmente bisogna conoscersi. Io so che tu stai dentro Monetica, io sto dentro Monetica, io faccio una cosa che a te ti piace, posso fare anche da cucinare, la marmellata, quello che vuoi, tu mi paghi in Netflix. È previsto, non c'è nessuna denuncia da fare, non c'è nessuna tassa da pagare, questo si può fare. Quindi in pratica però trasforma in ricchezza collettiva di tutti anche l'attività di scambio tra di noi. È previsto anche l'altro segmento, il semplice dono. Il dono diventa attività economica di cui tutti si arricchiscono. Io ti posso dare degli ethics, te li do. L'ho presi, l'ho guadagnato in qualche modo nel tuo circuito e li trasferisco. Come quando si fa un vaglia, come quando uno dice mando dei soldi a Tizio, a Caio, al figlio che sta all'università, eccetera, gli mando degli ethics. Ma questo scambio avviene sulla piattaforma? Sì. Sì, sì, sul tuo conto social in questo caso, che c'è il conto business che è quello tra aziende. Sul tuo conto social tu puoi accreditare presso un altro conto social di qualcun altro che sta dentro il circuito, tot ethics, glieli mandi. Ok, invece quando faccio il cambio su di me, tipo voglio mettere in Monetica 200 euro? Sì, lì cosa fai? Sì, tu puoi fare, praticamente puoi fare o un bonifico o usi una carta e praticamente è come se mandi a Monetica 100 euro. Monetica ti restituisce, li puoi prelevare facendo un bonifico dal tuo conto oppure utilizzando una qualsiasi carta. Se fai il bonifico l'accredito ci mette un po' di più ad arrivare, se fai con la carta è immediata. Vedi subito l'accredito, però con quell'aumento del potere d'acquisto. Ecco. Allora, non so se vogliamo fare un minimo di pausa, perché vi voglio accennare poi a Filiere Virtuose. Una cosa, in lunga prospettiva, questo tipo di scambi potranno essere completamente slegati dall'euro? È un'ottima domanda. Un'evoluzione molto grossa, perché comunque un'azienda ha comunque tasse da pagare, no? Quindi sì. In una prospettiva molto lunga, non ho idea. Sì, molto lunga, sì, però non è che ci liberiamo delle tasse. Non ci liberiamo delle tasse. Ma attenzione, c'è un che noi in termini tecnici si chiama, gli scambi tra aziende si chiamano B2B, cioè da business to business, d'accordo? Oppure B2C è tra azienda e consumatore, l'accista per consumatore. Ma c'è anche previsto, è predisposto Monetica, nessun altro circuito lo è, al B2G, così lo chiamo, dove questa G sta per government, cioè gli enti locali. L'ente locale è previsto che possa fare parte di una rete come Monetica. Allora, cosa succede in questo caso? Che l'ente locale, come sapete, offre dei servizi, no? Non so, l'asilo, la spazzatura, offre dei servizi che vanno pagati. D'accordo? Ecco, allora l'ente locale può entrare dentro la rete. Perlomeno la rete è predisposta per entrare, ancora non c'è nessun ente locale, ci sono delle questioni che devono essere superate, ma si sta lavorando dentro Monetica al B2G. A quel punto immaginiamo che l'ente locale sia dentro, tu potrai pagare le tasse locali in Etix, solo a quel punto. Però dicevamo prima l'altra possibilità, a me è venuta in mente stamani, ma io non sono nessuno. Ho interrogato Vito, gli ho detto, ma non è che col tempo, perché tanti, quelli più avveduti, stanno scappando dall'euro, dice, l'euro sta perdendo potere d'acquisto, no? Allora c'è tanta gente che sta, chi porta i soldi nelle banche svizzere, cambia euro in franchi svizzeri, o fanno altre cose di questo tipo, cioè dall'euro comprano una moneta che gli sembra più stabile, che non perde valore, oppure che si apprezza rispetto alla nostra, con l'idea di guadagnarci, questa è l'idea che circolano, però è così. Allora, io dico, ma questo sono io che lo dico, non è ancora dentro Monetica, ma e se io spendo franchi svizzeri, posso in proporzione, andando a vedere il cambio eccetera del momento, comprare Etix spendendo franchi svizzeri? Probabilmente lui mi dirà, dice, prima devi tramutare i franchi svizzeri in euro, devi ritornare agli euro e poi ti compri, cioè in questo momento già questa è una cosa che posso fare, d'accordo? Ma io la domanda che voglio fare a Vito, ora la sto rendendo pubblica, però gliel'ho scritta stamani, cioè, dico, facciamo in modo che un giapponese possa comprare Etix, che uno svizzero possa comprare Etix mettendo dentro la sua moneta, questo, perché in questo modo noi riusciamo a sganciarci dall'euro stando dentro tutti i vincoli dell'euro. Io non so se questa è una buona idea, me lo dirà lui. Prego. Allora, a una delle domande che devo fare, c'è stata una risposta, una spiegazione, quando ha detto che sono distinti i conto dell'azienda per gli scambi. Sono distinti, sono, sì. Ecco, io volevo chiedere, infatti, come fa uno a identificare se ciò per 10.000 euro di credito? Sì, sono distinti. Sono distinti. Distinti. Quindi, data sì. Quindi ti stai parlando attualmente di circolazione di una moneta parallela. Sì. L'Etix è una moneta parallela, è quello che è, no, tecnicamente non è, sì, è parallela, ma è, allora viene definita prima complementare, ma poi più propriamente dell'Etix parliamo di moneta funzionale, che è una denominazione che ha dato proprio Vito Umberto Lavagna. Quindi più prende campo di fatto, sì. E più anche gli enti locali e anche il Ministero delle Finanze magari sarà interessato. Sì, certo, perché è già riconosciuta una politica diversa da questo governo. È già riconosciuta dalle agenzie delle entrate, da tutto. Ripeto, non si tratta di un sistema artigianale. Dice, ma facciamo una cosa, la facciamo insieme, ci mettiamo un commercialista, qualcuno così, vediamo un po'. No, qui stiamo parlando di un'innovazione unica nel suo genere. Vito Umberto Lavalli, prima avevo cominciato il discorso, poi l'ho lasciato in sospeso. Nel mondo ci sono moltissime monete complementari, si stima da 5.000 a 6.000. Lui in più di 10 anni ne ha studiate 3.000, ma lui non sono io, è lui. Cioè, nel senso che ha una cultura, tutta la cultura necessaria, e come dice lui, ho preso il meglio, ho studiato i pro e i contro, i difetti di una, i pregi dell'altra, e ha costruito questo sistema. Ma vi ripeto, quello che vi dico lo si capisce bene se andate a dare una lettura anche veloce al curriculum di questa persona, che ha ricoperto cariche istituzionali di altissimo livello. tutt'oggi lo chiamano nel sistema SWIFT, quello dei pagamenti a livello internazionale per aggiustare le cose. Quindi stiamo parlando non di una cosa artigianale, non è una cosa che la pigliano e la buttano giù in due secondi, no? Come può succedere, è pienamente compliant, come si dice, cioè conforme alle normative fiscali civilistiche italiane ed europee. Quindi ora io dico, prego, una ignoranza unica. Allora, se visto, può succedere che a volte qualcuno dice di qualcosa scomodo e viene chiuso il canale di questa persona, a noi non ci può succedere che occupando una rete, occupando questa servizio, si viene chiusi. E a quel punto. Allora, vediamo se ho capito bene. No, ma guarda che io sono di un'ignoranza. No, no, va bene. Però cioè, io penso. Mi viene a pensare a questa roba. Sì, allora. Intanto non vi ho parlato di una cosa importantissima, che è Sfero. Allora, quando ho fatto ora l'ultima intervista, l'ho fatta a Guido Grossi, cioè, l'ho girata forse a Giovanna. Sì, poi studierò. Sfero è la stessa piattaforma dove abbiamo mandato la comunicazione che Loretta fa le sue pubblicazioni, quindi è la stessa. Io ci ho trovato alcune cose di. Sì, allora, ma cosa. Sfero è solo italiano. Sì, Sfero, che cos'è Sfero? È nato come un social italiano, perché nei social si viene tracciati, ci sono i cookie, si viene censurati, si viene buttati fuori e così via, no? Allora, dei ragazzi avevano avuto questa idea, dicono, perché non ce lo facciamo noi, come sono gli italiani, no? Ce lo facciamo noi, un nostro social, che sia tutto nostro, non delle multinazionali, eccetera. E loro sono entrati in contatto con Butterfly. Butterfly, dicevamo che ora ha la stessa struttura, è una fondazione, ha la stessa struttura di Monetica. I tecnici dell'uno sono diventati i tecnici dell'altro, nel senso che Butterfly ora si è integrata, poi ti mando un documento su questo, però in quell'intervista lo pubblico il documento in fondo. Cioè. Allora, Sfero è stata rilevata da Butterfly ed è in continua evoluzione, nel senso che se ci andavate qualche mese fa tante funzionalità non c'erano, quindi sta crescendo via via, sta diventando, ora è partita una campagna di crowdfunding, cioè cos'è il crowdfunding, lo sapete, no? Una raccolta di fondi pubblici che diciamo con il quale si sostiene un certo progetto che loro hanno intitolato È tempo di unirci, questo è lo slogan con cui chiedono, perché avranno anche un loro server, la possibilità di pubblicare contenuti. Voi sapete che quando uno pubblica contenuti su YouTube tu puoi pubblicare contenuti ed essere monetizzato, si dice, d'accordo? Però devi accogliere la loro pubblicità, quella che loro vogliono. Questa stessa idea arriverà dentro Sfero. Dentro Sfero, però, attenzione, non siamo tracciati, non siamo censurati, ma siamo incentivati a pubblicare i nostri contenuti e ricevere, prima loro dicevano, quando ancora non erano con Monetica, dicevano fly, cioè incentivazione economica a produrre contenuti. Però cos'è che promuoviamo? Una pubblicità di qualità in cui ci promuoviamo ciò che noi stessi produciamo, cioè un'altra idea di pubblicità. Questo diventerà Sfero e diventerà anche una vetrina, perché normalmente noi cosa facciamo nei social? Nei social andiamo lì e ci scambiamo informazioni, contenuti, commenti, cerchiamo con tutti i limiti dei social di pensare insieme in questo marasma che è un social, no? Allora, qui la cosa si sta evolvendo, ci facciamo un social tutto nostro, che diventa anche una vetrina in cui ciascuno non solo pubblica i suoi pensieri, quello che pensa di una determinata cosa, dà informazioni all'altro, ma se è un produttore fa vedere anche cosa offre alla comunità. E il social quindi si evolve, ma è un social nostro, non di una grande multinazionale che poi piglia i nostri dati e se li vende, ci fa quello che vuole, eccetera eccetera, no? Quindi è come dire, in tutto quello che abbiamo detto, è come dire, le potenzialità enormi che offrono determinate tecnologie non le lasciamo in mano a loro che le usano contro di noi, ma l'idea è opposta, utilizziamole noi al meglio per costruire bene comune per la comunità, d'accordo? Ma utilizziamole, perché l'altro atteggiamento è: ah, io mi rifiuto, no, ma ho detto scaricare un'app, no, perché la scarico l'app, perché potrebbe essere come Bill Pass, per dire, no? Allora, qui è un'altra cosa che si sta proponendo. Ora poi, se volete, vi parlo rapidissimamente di filiere virtuose, ma se ve la sentite... Magari un accenno. Un accenno, sì, perché poi eventualmente quando ve ne parlo ti indico anche la persona importante che è Maurizio Rampazzo. Sì, Maurizio Rampazzo è il presidente dell'associazione Filiere Virtuose ed eventualmente lo invitate e lui ve ne parla molto meglio. Io vi faccio un cenno. Lei voleva chiedere qualcosa? Volevo fare solo una domanda. Sì. Le implicazioni fiscali. Sì. Per quanto riguarda, ad esempio, ho fatto l'esempio di uno che fa le marmellate, però non è un'azienda. Io vendo, oppure metto in vendita, e la signora le compra. Sì. Siccome in Italia come c'è scambio di moneta, c'è un... No, no, qui guardi. Allora, l'istituto a cui si fa riferimento è la permuta, prevista dal codice civile. Perfetto. Sì, è la permuta. Sì, ma lo scambio tra... Lo scambio in questo senso, utilizzando i buoni corrispettivi, lei non ci deve pagare nessuna tassa, anche dentro monetica. Allora, per quello è interessante, perché diventa un altro segmento, chiamiamolo di mercato, ma in cui diciamo la ricchezza diventa ricchezza di tutti, perché io ti do ETIX e poi quegli ETIX li posso spendere dentro il circuito più largo. Diventa molto interessante. Cioè, con questa cosa noi facciamo la transizione a un altro sistema economico in cui quella, ricordate all'inizio dicevo il binomio munus, dono, remuneratio, remunus in pratica, e questo diventa bypassare, cioè mettere i vantaggi, tutto quello che abbiamo detto, i vantaggi che normalmente riceve il sistema bancario privato che stampa soldi e te li dà, e quello si chiama, ci sono due tipi di signoraggio, di emissione e di circolazione, perché dentro un circuito di questo tipo tutti gli studi dicono che, ma si è visto anche nel Sardex, nel VIR che allunga, la circolazione si intensifica, cioè gli scambi diventano molto più rapidi, la vivacità economica, diciamo, di 10 volte rispetto all'euro. Perché? Per tanti motivi che abbiamo intravisto. Appena mi viene accreditato quello che ho fatto, immediatamente lo posso spendere. Insomma, entriamo in un altro pianeta, cioè un altro pianeta dal punto di vista della relazione economica tra di noi, senza il parassita bancario. Ma le banche non è che sono scontente, poi tutto sommato, se l'attività economica di una comunità, che non è che vengono del tutto disintermediate, vengono, siccome le banche hanno abbandonato l'economia reale, e si sono sempre di più rivolte, tu c'hai i tuoi soldi in banca e la banca ti propone di comprare prodotti finanziari, dice da compra questo, con questo ci fai tanti soldi, ma non è che tu investi soldi e questi soldi alimentano l'economia reale, non più, e questo è uno dei guai. Cioè l'idea nella quale ci siamo ficcati o ci hanno ficcato è che si possano fare tanti soldi con i soldi bypassando l'economia reale, la speculazione finanziaria. Allora noi con quei sistemi di questo tipo stiamo cominciando a uscire da questa da questo gioco finanziario, no? Da questa schiavitù, ecco. Non è che a questo Vito gli fanno fare la fine di Enrico Mattei, no? Speriamo di no. Dire. Oddio, se ci sente. Poi di Aldo Moro che gli ha fatto le 500 lire. Ma ormai il sistema l'ha messo in piedi e non lo conosce solo lui. È una cosa, diciamo, che lui, io credo anche, ha diffuso, proprio perché deve diventare un nuovo modello economico. Ecco. Va bene, parliamo rapidissimamente perché non voglio stancarvi oltremodo, di filiere virtuose. Allora, se ne può parlare tanto rapidissimamente, poi eventualmente approfondite. Filiere virtuose è questo. Normalmente noi compriamo quello che compriamo nei supermercati e ci portiamo a casa il contenuto, chiamo una lattina, no? Dentro c'è i pelati. Usiamo i pelati e la lattina che facciamo? È di metallo, eh? Pensate al fatto che le materie prime, avete visto? Non so se qualcuno di voi sta facendo dei lavori in casa, lavori di ristrutturazione. Guardate che aumenti terrificanti. Allora, noi cosa facciamo? Usiamo il pomodoro e la lattina la buttiamo. La trasformiamo, cioè, in rifiuto. È un bene di scarto, lo trasformiamo in rifiuto. È una cosa stupida, che va contro di noi, ma siamo stati abituati a far questo. Allora, cosa propone filiere virtuose? Anche qui non è una cosa artigianale, non è solo un'idea, c'è dietro una legge regionale. Allora loro dicono: no, ma sei matto, non lo buttare. La plastica non la buttare, se fosse vetro non lo buttare, è tuo, tu l'hai comprato, hai comprato l'acqua, hai comprato anche il vetro, il contenitore, hai comprato la lattina di alluminio, andate a vedere i prezzi dell'alluminio, e così via. Non lo buttare, è tuo, è un bene di scarto. E ti dice l'Associazione Filiere Virtuose: semmai mettiti in casa dei kit per sminuzzare, ridurre di volume e impacchettare questa roba. E noi ti diciamo cosa farci. E cosa ci fai? La vendi. La vendi. Ma attenzione, guadagni dalla vendita. Ah, vi dico subito, non si può fare da solo, cioè io decido ora, no, lo faccio, me la vendo e non pago più la Tari, la tassa. No, allora l'idea è questa, ci mettiamo insieme, facciamo un comitato di scopo che ha questo scopo. Noi come comunità cominciamo a fare questa operazione, il comune ci deve riconoscere, c'è la legge. Chiediamo al comune il riconoscimento di quello che noi facciamo, come non siamo più solo cittadini consumatori, diventiamo, in gergo si chiamano prosumer, cioè produttori, sumer sta per la parte finale di consumer, cioè consumatore. Allora si è coniato questo neologismo prosumer, produttore e consumatore insieme, no? Cioè un cittadino attivo, non uno che consuma e basta, ma uno che dice: questo è mio, questo scarto è mio, io me lo vendo. E a chi lo vendo? A un'azienda che lo riutilizza, l'economia circolare. Guadagno vendendolo, devo risparmiare, ora non sto producendo un rifiuto, quindi perché devo pagare la Tari? Allora, della Tari riesco a risparmiare sino all'80%. C'è quel 20% di cose fisse, diritti fissi, eccetera, che devo continuare a pagare. Però a questo punto io ho risparmiato l'80% della Tari e sto guadagnando dal rifiuto. Allora, se sono un, come si dice, un utente domestico, no? La parola mi manca ora. Ho solo la mia famiglia, produco i rifiuti che fa la mia famiglia, anzi non produco più rifiuti, perché qui l'idea è non produrre rifiuti. Infatti io ho scritto un articolo intitolato così, che sapete per loro la dicitura diciamo virtuosa era rifiuti zero, d'accordo? Allora io ho intitolato l'articolo rifiuti zero, no grazie, meglio filiere virtuose. Ma sapete che mi hanno rifiutato l'articolo? Quelli della decrescita felice. No, il contenuto ci piace, ma non ci piace il titolo, che il mio titolo era provocatorio, come dire, guardate ragazzi, non dobbiamo più cedere all'idea di produrre rifiuti, dobbiamo fare il contrario. Quei rifiuti sono materia prima, bene di scarto, sono nostri, così come quando noi compriamo, che ne so, le bottiglie di vetro, ce le teniamo in casa e ci mettiamo la passata di pomodoro, no? Per tornare al primo discorso. La cosa è che nessuno ti può dire quella bottiglia la devi portare ai rifiuti, non è tua, nessuno te lo può dire, tu l'hai comprata, a questo punto te la vendi, perché è un bene di scarto di qualità. I prezzi rispetto aumentano di anche 10 volte rispetto a quanto ci guadagna l'agenzia, cioè diciamo l'impresa che piglia i rifiuti dalla raccolta differenziata e poi li tratta. Beh, se lo facciamo noi in casa lo facciamo molto meglio, e il prezzo a cui possiamo vendere il rifiuto trattato direttamente, cioè il rifiuto bene di scarto trattato da noi direttamente, è da 5 a 10 volte più alto il prezzo che riusciamo a tenere rispetto a loro. Allora voi dite, ma a chi lo vendiamo? Ma lo vendiamo a quelli che fanno la raccolta differenziata e che poi cercano di utilizzare la carta, i metalli, il vetro, tutto ciò che è. Quindi questa è l'idea di fondo ed è bellissima, perché c'è, questi ci hanno lavorato da più di 10 anni e hanno prodotto una legge regionale negli Abruzzi, e hanno già dei comuni che hanno riconosciuto l'attività di comitati di cittadini che stanno facendo questa cosa. Poi loro fanno anche di più, dicono, allora tu puoi ricevere euro vendendo i tuoi beni di scarto, risparmi sulla Tari, va bene. Guardate che ora se lo chiediamo a Eugenio, gli chiediamo, ma tu qui quanto paghi? Io credo tanto, eh. Ci sono alberghi che arrivano a pagare sino a 40.000 euro l'anno di Tari. Capite cosa significa per un'azienda così? Che non solo risparmia fino all'80% della Tari, ma anche guadagna da tutti i beni di scarto che produce. Loro ti guidano, ti metti in casa dei kit che ti insegnano, dice, cosa faccio con la bottiglia, cosa ci faccio con il vetro e con i metalli, la lattina come la schiaccio, eccetera eccetera, no? Quindi in casa, soprattutto qui poi nelle nostre zone, diventa un'attività. Tu la puoi far fare questa attività, che ne so, a tuo figliolo, e gli dici, guarda, fallo te, quello che ricavi da qui sono soldi tuoi, è la tua paghetta. Ma dico una fesseria qualsiasi per dire come, ma loro ne fanno anche un circuito economico, cioè a dire, o euro oppure loro li chiamano ecocrediti. Quanto vale un ecocredito? Un euro. E cominciamo a fare un'attività economica tra di noi. Questa è l'economia circolare, l'idea di economia circolare, in cui dentro questo comitato che fa questa attività ci stanno aziende agricole, agriturismi, che ne so, l'asilo nido. Allora tutti guadagnano da questa attività. Poi io ho ecocrediti, dove mi li vado a spendere? Dal ristoratore che sta dentro il circuito con me, che fa la mia stessa cosa. Porto i miei beni di scarto all'azienda, che se li compra e li trasforma e li fa diventare di nuovo bene. L'idea dell'economia circolare. Ma Associazione Filiere Virtuose fa anche un'altra cosa. insegna, diciamo, cioè dà delle indicazioni importantissime ai gruppi, alle piccole comunità, per fare autonomia energetica. Cioè ti dice, analizza la situazione di tutti e ti dice: tu cosa puoi fare per autoprodurti l'energia? Perché noi abbiamo iniziato dicendo: dobbiamo recuperare tutto ciò che abbiamo imparato, cioè tutto ciò che nella nostra cultura dobbiamo recuperarlo velocissimamente, ma non solo, dobbiamo andare avanti rispetto a quest'idea, perché non siamo in grado, cioè dobbiamo imparare ad autoprodurci anche l'energia come comunità. E anche in questo Associazione Filiere Virtuose dà delle indicazioni importantissime. E io qui ora mi fermerei. Eventualmente poi ci tornate con Maurizio Rampazzo, che anche lui l'ho intervistato su tutta la prima parte. Sulla seconda parte, quella della costruzione di comunità energetiche autonome, in cui noi diventiamo di nuovo prosumer, ma in questo caso di cosa? Di energia che ci autoproduciamo e ce la scambiamo. Capite che cosa significa? È un salto enorme. Non siamo più solo consumatori, ma anche produttori. Cioè a dire, la nostra casa, la nostra azienda diventa un'unità di produzione dell'energia. Dicevamo prima che la guerra viene fuori anche da questi conflitti, per chi si accaparra l'energia, i combustibili fossili, le materie prime. E qui dobbiamo completamente cambiare strutturalmente il sistema, e lo dobbiamo fare tutti noi. Se aspettiamo che lo facciano loro nel verso giusto, siamo fritti. Allora, è in questo senso che stamane abbiamo parlato di tutta una serie di cose che possiamo fare da subito. Grazie. Bene. Allora ringraziamo Francesco, aspetteremo queste informazioni, questi nominativi, per poi poter approfondire ulteriormente. Riceverete le nostre comunicazioni, quindi quando avremo poi nuove date, nuovi incontri, sarete informati. A breve, comunque, avevo già fatto nella mail cenno sull'incontro con Valentina Fusco, sul discorso della politica, a giugno il 16, e poi avevamo rinvitato di nuovo Eugenio Mariscalchi per la comunità economica indipendente, per sentire anche quest'altra parte che fosse interessata. Poi se riusciamo a fare anche qualche altro incontro, andremo però di sera, visto che si va in estate, magari il venerdì ci troveremo un paio di ore in modo da essere poi più liberi per il sabato e la domenica, d'accordo? Vi ringrazio. Allora, grazie a voi.